Sotto Sì, questa dovremmo luna esserci. piena. Allora, ci dovremmo essere. Dovremmo andare in diretta a breve con La Maledizione di Katta, episodio 49. No, no, E sei già in diretta. penso proprio di sì. Beh, siamo un po' in ritardo, tra l'altro. Ultimamente sono stati Siamo già più in precisi. diretta Beh, alle 10. vabbè, sì. Non ci formalizziamo. Tanto avremo tempo per salire di livello, vero Katta? No, Tutto quello che volete. in realtà dobbiamo sfruttare Arci finché c'è, Sì, noi perché siamo in mezzo allo scontro. esatto, infatti era un mezzo dramma se non c'era Arci in realtà. Iniziamo in medias res. Cioè, nessuno aveva detto No, anche nulla perché per. non potrò fare tardi perché lavoro Va bene, domattina. vai, Arci, gioca! Infatti tocca Iniziativa. a te. Puoi Attendiamo dire un un. attimo Okay. velocissimamente la situazione, dai. Sì, allora, vabbè, intanto possiamo dire Giulio che. mi aveva un po' riassunto, eh. Cosa? Aspetta, adesso non ce ne hai neanche presentati, rega. Allora, è vero, intanto, bravo, Sceo, le formalità. Allora, chi siamo? Soliti Tycoons and Dragons. Ci potete seguire sui nostri canali social, Tycoons and Dragons e RGDR. Continuate a farlo durante questa fase 2, fase 3, fase 5, fase 36, fase 49 dell'episodio di Katta. 49, esatto, bravo. Tra 2 settimane si torna in fase 1. Si torna in fase 1. Ah, Fase 1 questa aveva un cassa sacco di integrativa follower. dicembre, No, tranquillo non è vero. Giulio, io ho Speriamo aperto i di posti no. di terapia intensiva in cantina. Comunque, oggi salutiamo Edoardo Salladini che gioca con l'altro gruppo, però è stato carino che ci ha fatto vedere un po' il suo laboratorio. Giulio, te lo sei perso, ma è stato divertente. Vero. Salutiamo anche Luca Lazzarini, che è sempre nei nostri cuori. Ma parliamo di quelli che contano, di quelli che ci sono. Andrea Giacomo Vecchi, Giulio Bosi, Master Enrico Catabriga, Francesco Steroids, Arcidiacono, Stefano Gamberoni e Marco Bosi. Adesso mi andrò a riprendere la sigla che Katta mi La ha sto facendo mandato. partire io, la senti? No, la faccio partire io. Abbi Ah, si pazienza. sentiva però anche lui. Eh sì, Sì, ma. poco. Però il Adesso video è sentiamo. carino. Che cazzo? No, va bene. Si È un sente? video in 360 gradi. Buono, mamma, questa storia. Questa è la sigla? Ma perché dovete farmi i cazzi miei se vi dico che sono a posto così? Esatto. Questo è un grande momento, Sono questo è un grande orribile. momento di Non ci metto la televisione. macchina di un altro. Allora buona. Minchia, questo mi Questa canzone ha ricorda. una voce familiare come No, ho extra. capito, ma anche se me. Questo mi Cioè, ricorda questo un suono non è sacco per. Yak. Cioè. Ma In come famiglia vuoi? sono. Ma! Allora Ma va a no, ma culo. no. Questi sono tutti extra. Questo è bellissimo. Speciale. Non peccato non avere il video. Eccolo. Tutto a posto? È stato un Tutto momento bello, yak di sono in Arci. diretta. Non Volevi smettevi di mangiare, mangiare, Arci? quindi. Ma che cazzo vuoi? Cosa? Non volevi più mangiare, Arci? No, no, mi ho scordato di essere in diretta, stavo inviando contro mia madre. Scusate. Salutiamo Cos'è che Alessandro. volevano di così Del resto sgradevole? è stata poco No, fa la festa della semplicemente oggi mamma, non sono quindi. andato a 100 perché non avevo la macchina. Ho rimandato perché si è rotta la batteria, ho rimandato gli appuntamenti a tra 2 settimane. Mia madre ora fa, Ah, devi quando non usare la potrai più macchina. andarci, ottimo. Perché No, torneremo non in fase posso. 1. No, e quindi ho detto tipo, Vabbè. mia madre si è proposta di darmi la macchina di mio zio. Ho detto, cioè, io ho detto che non volevo guidare io la macchina di un altro, ho solo spostato gli appuntamenti senza nessun tipo di tragedia. E mia madre, potevi prendere 15 macchine in famiglia, perché non le prese? Devi prendere il nostro aereo. Se chiedevi il prestito da 25.000 euro, avevi una macchina domani. Hai un aereo, Arci? Non lo sapevo, grande. Beh, congratulazioni Sono per il tuo felicissimo per benessere. te, sì. Congratulazioni. Se no, come ci arrivo Ah, in palio, secondo te? una cosa seria, approfittiamo anche della diretta per fare ancora una volta gli auguri a colui che sta streamando, Andrea Giacomo Vecchi, che è entrato nel club dei 30. Grazie, Sceo. Che Vi sono andato alla diretta del ringrazio. compleanno per evitare denunce, immagino. Tra l'altro, Catabriga, ridi, ma Vabbè, tra un c'è di mesetto peggio. tocca a te. Un mesetto, spero che si possa fare qualcosa. Sì, No, sì, ma li incontri a potrai 30 anni. trovarti con altri a 5 metri di distanza. Dai, qualcosa forse allora riusciamo a organizzare. Vedi, Catta, potevamo fare come ai vecchi tempi la guerra col super liquidator in terrazzo. Lontani, ci spariamo Esatto. con la mucchina. Esatto. un infettato col Covid e vediamo chi ci sarà tipo roulette russa. Va bene, va bene. Allora, beh, non c'è moltissimo questa volta da riassumere. Comunque, nella scorsa edizione, nella scorsa sessione di, della maledizione di Katta, che ricordiamo è sempre la nostra campagna di Dungeons and Dragons, ormai non lo diciamo più perché è talmente scontato che dovreste saperlo. Anche perché siamo quasi al 50° episodio. Siamo quasi al 50° episodio. E... Il livello è fermo lì. Stiamo ogni sessione... che aumenta è il... Cioè, è più facile che compia gli anni uno di noi, che passa un anno della nostra vita, che livelliamo nel gioco. Assolutamente. Sì. Scherzi, ma su YouTube, tra i suggeriti, l'altro giorno mi è comparsa, tipo, questi altri qua che giocavano alla maledizione di Strahd. Ah. Ed erano a livello 30. E credo che l'abbiano finito tipo in 6 ore. Beh, cosa vuol dire? C'è la one shot che si intitola Strahd Must Die Tonight e tu in una notte devi uccidere Strahd. Infatti sarebbe un ottimo... Sì, ma noi gli staremmo diventati, la maggior parte di noi sarebbe diventati amici e quindi non sarebbe mai morto in quella notte. Beh, grande party al castello di Strahd. Chi con la padella? Chi ha la padella? Marco? No, io con... Ah. Noi potremmo giocare. No, ma infatti mi sembrava strano perché Marco di solito si muta sempre. È il pan grattato. Ok. Catta, noi giocheremo Vardistar Must Die Tonight. Comunque, la scorsa sessione non è successo. Cioè, è successo molto, ma è stato sostanzialmente un combattimento. Siamo dalla strega. E Catta mi ha anche scritto come si chiama. No, strega. La strega si chiama Baba Lisaga. Ah, okay. Citazione è un'altra. Ok, no, infatti mi sembrava strano. Comunque, vabbè, ci ha trovato. Allora, in realtà, vabbè, l'unica cosa, diciamo, un po' extra è stata all'inizio, che è apparsa questa figura. Noi siamo, ovviamente, nella città fantasma della strega. Ci siamo rintanati in questo palazzo in rovina e è apparso questo fantasma, a quanto pare, del... Nel solito di un uomo che ha ucciso la figlia per evitare che andasse in sposa. Esatto, che poi non ho capito se era tipo il capo, il borgomastro della città. Il borgomastro, esatto. Fatto sta che clamorosamente sono riuscito a convincerlo che noi eravamo dalla sua parte e non l'ho convinto ad unirsi a noi, ma l'ho confortato a tal punto che si è sentito libero e ci ha anche detto che troveremo qualcosa di estremamente prezioso, bisogna capire in che senso, nella sua cantina. Dal punto di vista di un barbiano. No, infatti ho capito subito. Non ho usato la parola utile. Utile, infatti esatto, ho usato questa cosa. Infatti ho usato la parola utile che a me ha un po' fregato, nel senso che... Sì, a me che avessi un attimo. Esatto, nel senso lui ha detto che avremmo trovato qualcosa di utile nel suo scantinato, nella sua cantina. Allora io, nel momento in cui stava avanzando verso di noi l'abitazione semovente della strega, su questo tronco enorme, mi sono andato in giro a cercare un accesso alla cantina. Però, visto che tutte le scale che danno giù... Esatto, scale porteranno anche a Roma, però sono bloccate da massi terrificanti. Ci vorrebbero delle ore, esatto, per liberare il passaggio. Per cui nel frattempo, mentre io vagavo per il palazzo in cerca di ad orso di alci, in cerca di un pertugio, la casa della strega si abbatteva su di noi, sugli altri per meglio dire in questo caso, e cominciava uno scontro forsennato. Poi mi sono unito anch'io e va bene, lo scontro sostanzialmente ha preso una buona piega verso la fine, dove prima con l'aiuto di Arci che ha trasformato Atanas, quindi Giulio, in un gorilla, e poi lo stesso Atanas è riuscito a penetrare dentro proprio la casa e ad abbatterla in realtà. Questo bordello, trovato... ragazzi. Non so che sono di Katta. Ah sì, sentite la ventola? Sì. Aspetta che la stacco. No, vabbè, ma poi... Scusa, prima com'era? Com'è che non lo sentivamo così tanto? Non lo so. Ora si sente ancora? No, ovviamente no. Se l'hai spenta, no. Magari non era quella che sentivate. Ah. Ah. Quante ventole hai? Esatto. Vedete ancora la luce? Comunque, per finire il discorso, sessione di combattimento, alla fine Atanas dà il colpo finale a casa, vede anche la pietra, la gemma, scusate, la gemma che probabilmente ha rubato a Martinkov. No, io in realtà entro, da gorilla inizio a sfondare il pavimento perché praticamente è l'unica cosa che vedo, vedo del verde, poi torno umano, cerco di prendere la pietra, ma Katan maledetto mette la CD a 20 quando ha fatto 19. Quella che è scritta qua. Katan è inutile, sei un maledetto, lo sappiamo tutti. Ha finito gli HP da gorilla. Oddio, mille commenti di Jacopo Romano. Grande io. Cazzi miei. Sarà riferimento a, diciamo, ma grande Archie. poi c'è momento Yak di Archie, se l'hai detto, cioè, diciamo, fatto il verso. Oh Yak, ho mangiato la pasta con i crostacei. Sì, è vero, crostacei nel boschetto. Calamarata con scampi e canocchie. Aereo per Archie, felice per la sua immensa ricchezza. La strega Vez su Alci contro una strega. Argi che trasforma Giulia in gorilla. Bellissimo. Cazzo, Yak, dovresti giocare con noi. Ma in realtà almeno Bremperi potrebbe giocare. Potrebbe masterare a due Bremperi. Ci aiuterebbe. San Luca, Giulio, quando stavate spammando i vari simboli. Yak, fatemela chiesto. Cosa cioè, gli ho fatto vedere il simbolo di un Bremperi. Mm-hmm. Sto vedendo Rogue, bellissimo, mai quanto la serie che pari ai primi. Vabbè, questo perché dovrebbe esserci Rogue One a farci concorrenza stasera. Comunque, Vez, io sono un po' su Italia 1, credo. Sì, no, ma rimani con noi, Giulio, con noi. Vabbè, raga, c'è anche su Disney Plus, senza pubblicità. Bravo, Arci. Sì, ma io Disney Plus non lo pago. Stai guardando i cartoni, Arci. Comunque, Vez, guarda anche cartoni Netflix. Però almeno Netflix a Boris, se non merita. Si è rotto il Chromecast. Però domani vado alla Comet e me lo ridanno. Guardati anche i cartoni. Rebels e Clone Wars, me li consigliate? Rebel sicuramente sì, è molto carino. Io l'ho visto tutto. Adesso sto guardando Clone Wars, ma secondo me Rebels, da quello che vedo un po' all'inizio, è più bello. Rebels. Ma me li guardo. C'è anche come grafica, è bello. Clone Wars è più vecchio. Ah, mi immagino. È di 10 anni fa. C'è una serie di Clone Wars che invece non è fatta in computer grafica, ma proprio cartone, che è fatto da Genny Tartakovsky, che è lo stesso che ha fatto Samurai Jack, che è un genio. Sì, ci hanno fatto il film. Sì. Non una serie. Ah, pensavo fosse la serie, quella con gli scontri con le moto, i robot, i lancieri. Spettacolare. Va bene. Ma quindi Clone Wars, scusate, giusto per prima, ma quindi se è così vecchio, cioè poi la Disney se l'è preso, perché comunque Rebels ci sono tantissime cose che fa riferimento a Clone Wars. Perché era canon ufficiale. Era di Lucas. Canon, ok. Ah sì, ok, quindi se quando hanno preso, se lo sono presi anche quello, insomma. Ma non so perché i Jedi in quel cartone di cui sta parlando Katta fanno le cose che Rebels sono. Il cartone di Katta non è canon. Ok. Ma è un altro Clone Wars. Hanno fatto un po' di confusione a un certo punto. Comunque, dicevamo anche con Sheo che sarebbe carino anche fare un'altra campagna di Star Wars, in effetti. Ci sta, però qualcuno deve masterare. No, ma infatti dicevo anche ma non è questo il giorno. Ma non è questo il giorno, assolutamente. No, vabbè, oddio, potenzialmente potrei vedere magari io, quando ho finito di spammarmi tutto, magari mi sarò fatto abbastanza cultura per pensare. Raga, al prossimo virus un po' molesto, dai. Basta aspettare 2 settimane, Marci. No, dai, non dire così, Giulio. Non dire così. Vabbè, dai, forse 4. Sì, almeno, perché devi metterci il tempo di incubazione dentro. Sì, no, è più che altro deve moltiplicarsi come la prima volta, che era in giro da gennaio. Io sto aspettando i dati a partire proprio dal 18, che sono 2 settimane dalla prima riapertura. No, in realtà... A me sta quarantena è piaciuta di brutto, purtroppo andrà bene stavolta. No, in realtà se qualcosa va male non, è probabile che si veda già dal 18, perché devi... In realtà la maggior parte di chi se lo becca è asintomatico e sostanzialmente gli frega, non gli frega. Quindi devi aspettare che ci sia una massa critica che ti arrivi a intasare gli ospedali. Ho sentito parlare di massa critica? No. Bene, Arci 40. Tornando ai commenti... Ragazzi, tornando ai commenti delle nostre dirette, io sono onestamente molto preoccupato per Giovanni. Abbiamo perso. Buona la calamarata con scampi e canocchie. Vero? Grande Vez, chiamiamo Giovanni a gran voce. Ci ha abbandonato, chiaramente. Però avevamo guadagnato un altro veramente interessante. Sì, quello di passaggio delle ricette, vabbè, ma probabilmente ha sbagliato canale, o cercava un canale di cucina. No, quello di Umbrangieri dell'ultima volta. Ma secondo me è interessato più alla campagna di Umbrangieri. Poi, boh, gli ho linkato il... c'è qualcuno che ha commentato l'altro giorno. L'altra volta sì, abbiamo avuto un commento, in tema. Non siete abituati, ma non c'era. Il primo commento... No, abbiamo avuto un commento in tema che non ci aspettavamo assolutamente, infatti siamo in un momento di caos. Di panico allora, totale. Abbiamo passato 10 minuti a pensare a come rispondere. Infatti, tipo io ho delegato Giulio perché bisognava fare una risposta più o meno seria. No, beh, però dai, insomma, è stato piacevole. C'è domande sul gioco? Seriamente? No, ci ha chiesto... Sì, ha chiesto dove era ambientata, allora io ho risposto. Lui ha detto, sì, no, conoscevo il gioco, intendevo proprio l'avventura. Io ho linkato il link del blog perché non è un'avventura. E hai spoilerato dove naristi, ottimo. No, beh, tanto quella parte lì è conclusa. Infatti, la cosa interessante di Umbra Imperi è che, e utilizzo, perdonami, Kata, un po' la situazione della maledizione di Kata per dirlo, però Umbra Imperi sostanzialmente, anche se ti sei perso magari la prima parte, la seconda poi sarà un altro tipo di avventura, quindi è più a singola avventura. Poi magari Giulio farà un disegno complessivo, questo non lo so. Esatto, però... poi magari ci tornerete in Germania o no. Esatto. Però prima andrete sicuramente prima andrete in Giudea. Comunque, guardatevi comunque anche la maledizione di Catta, perché diamo il nostro meglio. Ma c'è ragione, perché se non vedete l'inizio non capite niente. Comunque va bene, e per finire adesso la situazione è che la casa è crollata su se stessa, giusto Catta? Sì. Però c'è ancora la strega da eliminare. Io ho la pietra in mano. Ottimo. Tu hai preso la pietra. Arrivo. Ed è di fatto tutto e per tutto ricorda quella che avete già come ti sta in un pugno. Un gioiello, diciamo, una pietra preziosa. Sì, ma nel senso mi sta in un pugno, che se lo stringo sta nel pugno, o è grossa quanto una pallina? La poggia, cioè, tipo è un dado, tipo questo, o è molto più grande? Fai conto quattro dadi insieme. Ah no, cacchio, quattro dadi è un problema. Volevi ingoiarla? Esatto. Beh, ce la fai con un po' di... Lo volevo fare con l'altra pietra, ma non c'è mai stata l'occasione. Entro questa può non farcela Atanas, ma può farcela Atanas scimmia a ingoiare. Mm-hmm. E una volta dentro, Non lo so, è una cosa che ho pensato di fare con l'altra pietra, che il mio personaggio ha pensato di fare con l'altra pietra. Ma che cosa... Ma non ce l'ha mai fatta. Di queste pietre ormai avete capito che hanno la proprietà di donare vita, o che tu le usi per far crescere delle cose come fanno i Martinkov, o che le usi per animare degli oggetti inanimati come questo. Giulio è abituato a togliere vita, quindi può far sparire la gente. Ma quindi dici che nel caso in cui Giulio avesse un po' di caghetto, così si ripristina la flora intestinale? Esatto. È che dopo un mese a Barovia, mangiando quello che mangi a Barovia... Sì. Beh, tu hai mangiato diverse cose strane. Allora. Sì, io a un certo punto mangiavo pezzi di cadaveri. Dettagli. Allora, adesso tocca a Pat. Stupato di cadavere. Google di cadavere. Punti feriti, sì, quando... Per farci un'idea. Quando avevo la faccia da sciacallo. Sì, io rega stavo malissimo perché avevo pochissimi PF e mi ero camperato. Cioè, in realtà... Pat Patk 32, Garrosh 59. Come 32? Te l'avevo lasciato che ne avevo 60? No, me l'hai lasciato che ne avevi 32. Comunque tu Arci abbiamo guardato, cioè il druido ha anche degli incantesimi di Dio, cioè fa paura. Beh, dipende quali intendi. Ce ne hai alcuni devastanti. World 55. Cioè parli di, puoi fare tipo, tipo uno puoi fare tipo un muro di vabbè, fuoco. Sfortuna che... a tutti. Che massacra tutto. Quanti sono quelli di sfortuna? È che muro di fuoco mi sa che è di quarto, eh. Anzi, non ancora poi... ce n'è di quarto tu. Ne ancora sei temporanei di sfortuna. Di quarto. Capito, ma te ne basta uno. In totale equivalgono a... lo so, in ma... In totale sono 59 più contro 6... questo qua era molto più utile metamorfosi. Ok. No, vabbè, vabbè. 65. Però tipo ne hai uno che, se non sbaglio, è che va a terminare degli incantesimi anche di comunque a discreto livello. Quindi per dire, potresti anche tirare giù la strega così. No, non lo so, bisogna vedere se tiene un incantesimo quello che vola. Però per esempio adesso il problema è che lei sta volando. Sì, esatto. Lei Ah no, tu dici tipo di... Se usi l'icona che ho messo se io, dovrebbe molti, avere la vita molti esatta. E forti, insomma. Quindi... Il discorso Vez è che devo prepararli la mattina stessa. L'icona che hai messo tu. Con la scheda però, PDF non li sto cambiando. No, quello ci sta, però nel senso magari fattene una lista, cioè nel senso che no, è vero che tu sei molto forte in combattimento, però ne, cioè, almeno guardando un po' così ce ne avevi alcuni che chiaro. Mi è venuta una grande invidia dicendo cazzo, mi fa male. No, che non li ho mai usati perché anche perché non ho il manuale e quello da qua? Qua da 2 mesi sì, va giù. Mantengo i soliti. Ma quindi, scusami, la casa è morta? Sì. Sì. La casa sì. Mister quindi perché hai detto che tu la Fortune... Cosa c'è scritto? Perché la strega è ancora viva. Ma la vediamo? Lei, appunto, ad ogni turno esce a bordo del suo teschio giganteschio volante e vi lancia addosso un incantesimo e ritorna nella nebbia. Quindi, però... Sfortuna aveva preparato l'azione per lanciarle addosso una palla di fuoco. Quindi quando lei è ritornata lui l'ha colpita e lei viene lanciata addosso un'altra a quelli che erano ed è a 60 piedi da noi in combattimento. Sì, ha colpito Ward e Gar. La visibilità della nebbia di 60 piedi, quindi quando voi vedete lei e lei vedete voi è a 60 piedi. Allora, quindi se io adesso faccio così abbiamo un manuale dei mostri rega accessibile via PDF. Uridas. Ma ne avevamo una volta. Niente, cancella quella. Cosa ti serve, Arch? Ehi, Vavistan è con la W doppia. Cerca Miceo. Cancella. Un dinosauro volante o che sia massimo di GS 8. Ah, bello. Giulio, preparati a volare. Vai a prendere la strega. Nella capanna c'è ancora uno spaventapasser. Ah sì, è vero. Vabbè, adesso dopo metterò un posto anche i token. Comunque la situazione è che ci sono Garrosh e Vardistran ai piedi della capanna della base del tronco. Io dentro, tu sei qua dentro e uno spaventapasser, tu Arci e Sfortuna siete dentro le rovine. E, per chi non ci fosse, il contenuto della capanna, di particolare c'era questa culla dove dentro riposava angelicamente un bambino, ma in realtà si è rivelata essere un'illusione. Peccato. Una vasca con l'interno incrostato di sangue. E ai lati dell'ingresso ci sono due gabbie piene di corvi che si starnazzano e si dimenano cercando di liberarsi. Sono due gabbie di ferro e praticamente quando vedono l'Atanas che abbatte la casa, praticamente gli starnazzano verso di lui come quasi ad incitarlo. Quindi il corvo è morto per la cloud kill? No, perché Arci erano GS4. Un pochino fuori dall'area. Arci GS4 8. GS8 massimo. Ah, 8 No, mi sa che fa merda. Devi trovare una cosa che voli che possa trasformare il Giulio. E un'altra cosa interessante, c'è un forziere di legno con delle bande, protetto da bande di metallo, rinforzato da bande di metallo, e come tutte le altre cose che stanno qui dentro è assicurato al pavimento con dei chiodi per evitare che chiaramente le cose si rovescino quando la casa cammina. E questo è quanto. Ma se provassimo a capire se la cosa volante lì è tenuta con l'incantesimo, forse Arci tu potresti cessare l'incantesimo. Allora, in teoria se Marco gli butta un'altra palla di fuoco, ma sì, magari anche più vita. Bisogna veneggiarla per farle perdere la concentrazione, giusto? Ma già per come funziona quella roba lì. Tanto io, scusami Giulio, tu adesso non sei gorilla, no? No. Ah, vuoi dire di non allora, scusami. Catta, se tocca a me io faccio così, evoco animali. No, scusa, sì. Batti l'ultimo spaventapasseri che è rimasto. No, quello fallo te. C'è una resistenza contro le cose non magiche, ma vai a fare a me che... Vabbè, hai 10.000 attacchi, Giulio. No, beh, tanto contro la strega non puoi mica far niente te, adesso. Anche tu. Vabbè, sì. Evocare animali cosa cambia contro la strega? Gli sparo addosso 5-6 aquile giganti e gliele sparo lì in faccia, fanno parecchio danno tutte insieme. Ma avrà sicuramente resistenza, quindi e te le batte. Vabbè, fai come vuoi. Beh, intanto spara le aquile, non spara palle di fuoco a noi. Quello che dice Giulio che se hai un incantesimo per colpirla, forse delle due è meglio. In teoria non l'ho preparati, cioè nel senso ho dissolvi magie. Beh, vabbè, mettetevi d'accordo con Katta. Di magia verso non è quello che dicevi tu l'altra volta che poteva usare. Sì, quello sì. Però per tipo quando c'era Katta... quando se ci manda una roba che ci mm-hmm. tiene addosso, sì. Sì. Perché lei vola su sto teschio, non sappiamo come cioè non ha un incantesimo di volare probabilmente. Secondo me è come tipo la scopa, una caratteristica sì, del teschio, infatti. È una specie di oggetto magico, un veicolo, diciamo. Però chiaramente voi non sapete come può essere certo. Azionato e comunque Arci una bestia che, forza è, cioè, che vola non c'è. C'è anche il Giant Bat. Sì, ma cosa fa? No, meglio le aquile. Sì, l'aquila è la cosa più forte. C'è anche il c'era anche il Flying Snake, ma è una roba piccola. Sì, sono tutte cose medio piccole, a parte l'acqua, sì. No, l'acqua non è male anche perché ha l'attacco multiplo. No, esatto. No, ma però forza. Non so se prende, effettivamente. Cosa vuol ma dire? Tu poi alla fine glieli puoi evocare dove ti pare, no? Sì, sulla testa. E quindi forse glieli puoi evocare anche sopra sta astronave. Scusa, ma non puoi evocargli sì, un mammut. Certo. Quindi, che gli frega? Esatto. Ma scusa un attimo, ma io questa qua la vedo. Cioè, nel senso, la vedo capta io. Quando no, appare, adesso è ritornata... Che è ritornata occultata dalle nebbie. Potrei fare. Però puoi preparare l'incantesimo per quando la vedi. Ad esempio. Esatto, faccio così. Poi gli sparo due rinoceronti a bordo. È quello che dicevo. Se tu gli fai un. Quanto farà ridere quando cadranno giù. Finirà come la guida galattica per gli autostoppisti. Esatto. Vabbè, oh no, di nuovo. Ironicamente, quello che pensò il vaso di petunie fu: oh no, di nuovo, esatto. E la balena c'è anche, vero? Ma rega, ma le i mostri. Boh, ma guarda quali un po' gli incantesimi, cioè. Penso che. Ma rega, io non ho nessun manuale sotto mano, non mi ricordo il numero di mostri che posso evocare di che GS. Allora, chiamano al del giocatore lì sotto mano. Tu, Vez, io, dimmi cosa vuoi che guardi. Guardami evocare animali. Il numero di mostri di animali che posso evocare di KGS. Ma no, è un incantesimo o è una tua capacità? È un incantesimo. Incantesimo. E si chiama Animal? No. Conjure Woodland Being? Sì, Conjure Woodland Being. Allora. Tipo. Allora. Conjure Animals. 60 piedi, perfetto. Un'azione. Livello? Allora, choose one of the following. Dimmi il numero di creature di massimo GS. Una bestia di poi farò una bestia di livello 2 o più basso. Mm-hmm. Due esatto. Bestie di grado di sfida, scusa, uno o più basso. Quattro bestie 4 di un mezzo e 8 di un quarto. Esatto, questo se lo lancio di terzo. Guarda, l'ha messo anche sul server. Dagger levels. Ma sono del cellulare. Vabbè. Aumenta allora, il allora. Quindi se lo lancio di quarto, posso invocarne due di livello 2. Se lo lanci di quarto, due di livello 2. Sì. Qua però non parla di quarto. Quindi questo sotto. Incantesimo usando certi slot incantesimo di livello più alto scegli una delle opzioni di qui sopra, ma apparirà un numero maggiore di creature. Si potenza ogni due, quindi esatto. Non puoi mangiarlo di quarto. Quindi posso farne una di livello 2, esatto. Però di quarto puoi fare il muro di fuoco. Ripeto, altrimenti chiedi al Kata se è così gentile da aumentarlo un po'. Se lo fai di quarto, considera che il muro di fuoco, Vez, non l'ho scelto. Lo so che posso farlo, ma non l'ho scelto al mattino, mattina che mi sveglio, quali hai quando sorge il sole, quali hai una gazzella, sceglie un incantesimo. Quali hai scelti? Quali sono quelli scelti? Io ho scelto di quarto metamorfosi e pelle di pietra. Ok, di terzo? Dissolvi magie e evoca animali. Ok, secondo? Pelle coriacea e sfera infuocata, ma non è... Sfera infuocata? Beh, sfera infuocata, perché no? No, è una specie di palla che rotola, non fa in aria. Sì, sì, sì. È quella che usava contro gli spaventapasseri durante l'assedio. Sì, esatto. Allora. Ma scusa, non mi ricordo una cosa quando convochi evochi gli animali. Cioè, vabbè, ci sta. Che tipo di animali sono? Lo sceglie, non mi ricordo. Tiriamo un dado. È strano perché gli incantesimi che ha scelto Arci sono molto role-playing. Pazzesca sta cosa. Ma questo è perché l'ha deciso Katta. Sono estremamente role-playing, se ci pensate. La descrizione dell'incantesimo dice il DM alle statistiche di quello che evochi. E quindi lui decide il numero e il livello e praticamente il resto è nelle mani del DM. Vabbè, dici convochi spiriti fatati che assumono l'aspetto di bestie e compaiono in spazi non occupati agitate che puoi vedere, vabbè, però non c'è scritto che non puoi scegliere. Dai, sparagli rinoceronte su, la descrizione del master, molti master fanno scegliere a te. C'è scritto scegli una di queste opzioni e le opzioni ti dicono il numero delle bestie e i dadi vita. E poi c'è scritto il master ha le statistiche di quelle bestie, quindi potendo preinventarmi delle bestie completamente inventate e dire arrivano quelle. Ho capito. Ma quindi non puoi neanche scegliere una caratteristica tipo che volano, non lo puoi scegliere. Puoi magari... Ecco, io gli dico puoi dire esprimere una preferenza e tirare il dado e vedere quanti di questi che hai preferito tu arrivi. Ho capito, ho capito. Guarda, fine sera fai 8 di un quarto con il mio volante del mago di Oz. Esatto, quella sarebbe molto. La gigante è GS 3, no? Un quarto, un mezzo, mi ricordo. 5th edition, Gentigol. Allora, GS1 Challenge 1. Quanti ne posso evocare, Vest, di Challenge 1? 2. Guarda, descrizione 2, 4, mezzo, 8, un quarto. 2 da 1, quindi puoi fare due aquile giganti, però cosa fai? Tiri un D2, speri che... Tiro un D2, in teoria una viene sicuro, l'altra non si sa. Giusto, Katta? Beh, puoi tirare anche un D3 su quelli a livello più alto. Beh, non sarebbe divertente se sparassi un rinoceronte e che tirassi giù la strega? ma è piuttosto complicato. Perché? Secondo me, se appare un rinoceronte dietro, gli tira una cornata per buttarla giù. Sì, ma deve rimanere in equilibrio su quel punto il rinoceronte. Vabbè, sì, se no, cade se la porta dietro, però. Evoco due aquile, carta come contrazione quando la vedo e appena compare gli evoco sulla testa. Ok. E domanda. In teoria le creature dovrebbero esattamente andare dopo di me come ordine di iniziativa, quindi in teoria se lei compare io gli evoco sulla testa e agiscono. Allora, la descrizione dice che hanno la loro iniziativa. Sì. No, a Darci, non ti conviene provarne a fare il doppio anche se non giganti ma normali? Mentre che ti capitano tre aquile normali, comunque le rompono il cazzo di più. No? Secondo me, se non gli possono fare danno, non possono prenderle e portarcela giù. Due aquile giganti, sì. Ah, perché tu hai quello fare il fatto. Okay, okay. Infatti, no, secondo me è la cosa migliore. No, no, allora sì. E magari non muoiono subito. Se la butta giù, magari se la buttano giù, magari. Va bene, allora tu. Poi. Spaventa passeri che attacca Giulio con i suoi artigli. Spaventa passeri è rimasto solo quello? Sì, ti manca con entrambi gli attacchi. Quanta vita, quanta vita avete voi, raga? Una cinquantina. Io non mi ricordo. Tutti una cinquantina. Non è 55, ragazzi. Però l'altro è morto. Ok. Mm-hmm. Garrosh, che cosa fai? Io adesso ho appena ucciso lo spaventapasseri, giusto? L'avevi ucciso prima, adesso avevi anche attaccato la casa che è crollata. Sì, sì, sì, è vero. E posso raggiungere lo spaventapasseri? Sì, Arcs? Agilmente. Allora, posso caricarlo anche? Ma la tua aquila mi porta su eventualmente? In virtù sì. Della tua... Pensavo di invocarle su per portarle sono per sempre un giù, mezzo montone e mezzo posso invocarle esatto. Giù e in virtù su. Della tua agilità soprannaturale puoi decidere anche se passare da dentro o da fuori. Però Mezzo, poi una volta che sei su la sei casa, cazzi. Intendi? Sì, perché il muro è stato sfondato da un gorilla gigante qua. Sì. Giulio, non sono così tanti danni, però. Giulio è dentro. Sì, Giulio. Allora, il muro della casa è completamente sfondato perché sono entrato come gorilla gigante. Giusto scenicamente, non la c'è casa un è a terra adesso. Affiancamento, però mi metto dall'altro lato rispetto a Giulio per avere due fronti, cioè la seconda. Metamorfosi allora. È a contatto, vero? Sì, allora. Prima attacco sicuri, controllo un attimo. Colpito. Che sono 7 danni. Giulio. Posso fare quindi l'attacco extra del caricamento? Dobbiamo fare un numero un po' rischioso. E fa 22. Io divento aquila. Ti prendo su. Se colpisce solo Ti butto sul ponte, ti tocco come gorilla gigante. Non ho capito. Fuggo. Quanti danni hai fatto? Perché? Sì. Così e tu stai sul... Vabbè, è carina come cosa. No, in realtà 16. Per dire, a me se vuoi fare sta roba... 1-5. Ah, 1-5. Basta che mi porti 30 piedi, Arci. E poi l'ultimo attacco. Cosa poi faccio 19. Che dopo io faccio, mi teletrasporto colpito. Da lei. E 3 più 6, 9 danni. 9. Morto. Ma non lo fai vedi, con vedi, la Arci? Vedi, no. Vedi. Però lo faccio con il mio spadone. Però se porto Vez su così. No, vabbè, vediamo. Se la tiri giù siamo a posto. Secondo me il top è che la tiri giù la circondiana. Io intanto per tirarla giù le acque devono prendere le lotte e vincere la lotta. Sì. Non mi sembra così automatico. Mentre se porto Giulio come gorilla gigante, la prendo in lotta, si lancia giù da gorilla gigante con la strega, anche se quando a terra diventa Giulio, kissen. Ho fatto una frog splash da... fai tipo Bruce Banner contro sul ponte di Ragnarok. Che la prendo su e... Come? La condizione di attivazione dell'azione che avevi preparato? Io quando lei torna visibile? Cioè visibile... Quando torna visibile, ok. Quando esce dalla nube, non ho capito come è fatta la cosa. Così? Sì, esatto. Intanto Giulio ha ucciso lo spaventapasseri. Bravo. Ok, lei riesce dalla nube spraitando improperi nella vostra direzione perché gli avete distrutto la sua bella casetta. Cosa fai? Raga, io non ho... mi abbinate per favore le statistiche delle aquile. Vabbè, ce lo vabbè, so catta, io gli sparo le due aquile qua, qui le vedi? Ti mando una foto. Aspetta. Bel mammut, lo potevi sparare. No, challenge 6. Quanto hanno in lotta? Hanno più 3 in forza. Sai che c'era anche il giant vulture? Ah. No. C'è, c'è anche il bestiario su Discord. Figo. Sì, ma non dà le statistiche. Bene. Non dà le statistiche, peccato. Non lo so, raga, dipende cosa vogliamo fare. Se volete che la porti giù, per me è più difficile, per me è più comodo portare su voi due. Ma basta che la butti giù, in realtà. Allora, tu comunque hai preparato l'azione che si attivava quando lei si vede, cioè esatto. Lei compariva. Quindi lei è comparsa, quindi puoi decidere se attivarlo o meno. Sì, l'attivo. L'attivi, ok. Quindi lancio l'incantesimo. Esatto. E evoco... Giusto. Evoco due aquile giganti. Ok. O almeno vai, ci provo. Devo tirare un D3, hai detto? Sì, tira un D3 e se viene 3 conta come 2. Ah, quindi è vantaggioso. Ok, arrivano due aquile giganti. Stando alla descrizione dell'incantesimo, hanno una loro iniziativa. Quindi tiro l'iniziativa? Yes. Sì. Aspetta. Comunque... te la tiro diversa, capta? L'aquila gigante capisce il comune. Per entrambe. L'aquila gigante capisce il comune. Quindi praticamente sì. Se noi gli parliamo, lei capisce cosa gli stiamo dicendo. È fantastica. Sta allora, questa. Una ha fatto 12 di dado, l'altra 20 di dado. No, una per tutte e due, avevo detto. Vabbè, tu prendo il più alto. Vabbè, 20 di dado allora. Avevo capito una per aquila. Okay. Cioè, una per tutte e due, avevo capito, un'iniziativa per tutte e due. Cioè, invece una per tutte e due vuol dire una per tutte e due. Agiscono. Non era una per una. Ho capito. Io ho fatto una per tutte e due. Beh, fai puoi fare due tiri, fai la media e fai agire la media. Beh, capo, dimmi te. Ho fatto 12 di dado e 20 di dado. Vedi tu. Sì, sì. Dai, prendi 6 10 va bene. Ah, ok. Agiscono le aquile. No, c'è cioè, calcola che l'aquila ha 16 in forza, quindi è una prova di lotta. Di quanto si muove l'aquila? Di quanto si muove l'aquila di volo? 24. 80 piedi. Scusa, ce l'ho in metri. Ce l'ho in metri. 80 piedi. Le aquile che le ho evocate però su giù, cioè le evoco, faccio così, visto che è il mio round, le evoco su Giulio e Vez. Ah, hai cambiato. Attento, non è il tuo round. No, quando lei compare, le evoco su Giulio Vez. Va bene. Ora tocca le aquile. Quanto finirà male questa cosa? È molto male, infatti, dai, va bene. Ora tocca le aquile. Ho una rete. Che ghermiscono Giulio Vez e li portano. Giulio Vez. Ma perché tu eri così dubbioso sul fatto di vincere una. Cioè, comunque, una forza più 3. Sì, Vez, hanno solo un più 3 di dado contro una strega. Vuoi che non abbia... Penso che abbia una gran forza la strega. Al massimo farà degli incantesimi, ma li può fare anche contro Giulio. No, Vez, ce l'avrà, però... Non... No, ma rega, ma una strega anche solo con un po' di destrezza si può usare si chiama l'acrobatics per disvincolarsi, cioè... Vai. Vabbè, io intanto chiedo a Marco se mi aiuta a stendere una rete. Sto scherzando, ma perché? Quindi a che distanza è Cattanteschi? Quando cadranno? Quando lo vedete a 60 piedi da voi. Quindi le aquile arrivano esattamente lì. Esatto. Quindi li portano sopra. E poi? E poi e poi li lasciano su cadere sul ponte nel turno delle aquile. Quindi tutto nel loro turno, li prendono e li smollano? Sì, okay. Tanta penso che possono movimento. Anche attaccare forse. Non lo so. No, prenderli è un'azione. Però si interagisce gratuitamente con un oggetto. Tu non sei un oggetto. Tipo candelabro. Va bene. Vai, allora. Aiuto. Ma è abbastanza grande il teschio? No, non è abbastanza grande il teschio. Ci sta una persona malapena, cioè ci sta una persona comodamente. Un gigantesco, un veicolo. No, precisamente è un cesto. Anch'io avevo capito che era più grandina. Guarda, c'è allora bastava davvero evocargli un rinoceronte sopra, la schiacciava. Capito, rega, io mi aspettavo. No, la grandezza del teschio è quella cosa lì davanti alla porta della capanna. Sono 5 piedi, 6, 7. Beh, non ci siamo tutti. Ci sta una persona. E ora? È una monoposto. E ora non lo so, le aquile stanno per rilasciarvi, insomma, cercando di scaricarvi su queste vascelle. Vabbè, no, Catta, fai così, le aquile lasciano lì. Vabbè, no, scusa. No, va bellissimo, dai, fanculo, andiamo. Sì, vai. Paracadutisti. Possono anche ronzano l'intorno e nel caso li... Beh, cercano di mollare, va bene. Due, intanto loro combattono. delle due cavalchiamo le aquile. È bellissimo. Quello... No, è un po'. Quello facile. No. Perché no? Allora. Da paura, poi dopo tipo questa colpisce Arci, perdiamo le aquile. Allora, di sicuro no, questa cosa... Però è epico, cioè cavalcare l'aquila. Sì, no, raga, più che altro io non avevo capito che sto coso fosse grande. Comunque. Ma nessuno, cioè almeno neanche io avevo capito che fosse così piccolo. Cioè, pensavo di potermi tranquillamente se no non parlavo di giocarci sopra due rinoceronti. Cioè. Beh, sicuramente non poteva starci dopo lei. C'erano i due rinoceronti ammassati sopra. Beh, nell'ottica di farlo precipitare ci poteva stare. Non posso mancarle, sul serio. No, possono essere presi e di buona grazia, perché sì, sono grandi, sì, possono essere trasportati se li prendono, ma cavalcarli sopra, poi loro non riescono a volare. Puoi cavalcarle, ma loro restano a terra. Vabbè, dai, proviamo così. Proviamo a fare l'arrembaggio. Allora, ogni aquila mi fa una prova per... cercare di smollarli il più vicino possibile al testo. Una cosa, perché li stai ammazzando così, dimmelo, piuttosto li uccido io. Dai, vediamo, ecco, almeno magari li vediamo. Sono sopravvissuta a qualunque cosa, verrò ucciso dalle aquile di un druido. No, in realtà Giulio, sarà tutto bellissimo, ma noi riusciremo a salire, a stare lì a combattere tutti in cinque, no, aspetta, e poi verremo inondati dal fuoco della palla di fuoco di No, faccio così. Faccio così. Vesta, puoi teletrasportare sulla nave dopo che sei a 30 piedi, no? Sì. Quindi sì, io appoggio solo Giulio. Appoggio solo Giulio. Però no, se riesci a appoggiare anche a me è meglio, Arci. Devo fare il tiro se riesco a appoggiare anche te, però. provaci. Fammi un tiro per precipita, proverà. Fammi prima per uno e poi per l'altro un tiro per colpire. Quanti sono i danni della vita? Adesso lo calcolerò se ce sarà bisogno. 6 per ogni 10 piedi. 19-15. Ok. Dai, riescono sopravviviamo. Riescono a smollarli vicino. Voglio vedere se loro riuscite ad aggrapparvi o a tenervi al teschio. Con Athletics, però. Quindi Athletics. Con svantaggio, perché questo sicuramente ve lo merita. Io direi con l'inspiration la uso tutta qui. La uso anch'io. Per dire, il tuo tempo è finito. Ma è il nostro turno, quindi? Cioè, aspettiamo il nostro turno. No, questa roba. È come se fosse un tiro salvezza, diciamo. Quindi tiro solo uno, posso? Sì, tirone solo uno. 15, giuro, per aggrapparti a un giganteschio. Il mio è un 3, è un 14. Vezzbo non può usare il più 3 dell'aura del paradino. No, io ho già il mio più 8 di Athletics, ho fatto 6. allora, ho più 8 di Athletics. Vabbè, 14 non è male. Non è male, però. Già Giulio riesce per proprio il pelo della cuffia a aggrapparsi. Un aggrappato tipo così in una mano, io ancora ho la cazzo di pietra. Esatto. Però almeno vedete che il suo peso comincia a, come dire, a gravare sul teschio, che è la deviazione della sua traiettoria. Ma quindi io sono precipitato? Tu sì, sei precipitato. Ciao. Precipita però, scusami. Addio, precipita. Allora. Beh, in un turno arriva a terra. Suppongo che la caduta... a salvarlo. Ma no, andrò a zero. No, precipita su di te. In realtà non ti togli troppo, perché considera che è un... No, è 60 piedi, e dove lo vedete voi? Dal terreno saranno 40, suppongo. Un di 6 ogni 10 piedi. Esatto. Comunque con la tua prova di atletica riesci a ridurre un pochino il danno e magari atterri sul... il terreno paludoso, che non è proprio durissimo. Parkour. Quindi, a fondo della palude. Vabbè, sono solo 14 danni. Vabbè, Rick, a questo punto le aquile fanno altri giri, prendono anche scemo e buttano su tutto. Ma tanti sono di mira, di mezzo anche. Vai, di brutto. Ma ora è il turno. Anzi, scemo, adesso vi guida, la strega. Ci lanciamo anch'io. No, ma dopo la proviamo in modo diverso. Come no, volta. Continuiamo. No, sta funzionando. Allora. No, l'ideale se Giulio si butta giù con la strega. Ma bellissima, certo. Come scena. La prende. Dove è a terra? Ma in realtà basta che... Scusa, ma non credo che riesca a fare grapple. Non puoi provare con le aquile a fare presa sul teschio e tirare giù? Non provarci. Adesso che so che è grande come una matita, sì. Prima pensavo fosse una nave, cioè, sai com'è? Anch'io avevo capito che era grande. Allora. No, però portami su, è figo, ti prego. Anch'io, voglio salire anch'io. L'idea è questa, Sceo, ti prendo su, ti porto sopra, poi torno nano, mentre precipito ti tocco, tu diventi gorilla gigante, arrivi con il teschio. E poi io potresti toccarlo, trasformare il gorilla, prenderlo e andare su. Però sarebbe il problema è che tu cadi e... il problema è che tu arrivi a terra, perdi la... No, non può. Gorilla gigante è gorilla gigante, è tipo un palazzo a momenti. E poi nel momento in cui tocchi terra io torno nano, perché non penso che tu regga la concentrazione da una caduta da 40 piedi. Beh, allora, se vuoi è forte anche mia. Atanas, la strega si sporge per capire che cos'è questa cosa che la sta tirando giù. Vedi il suo odio che si propaga dai suoi occhi e tende uno dei suoi delle sue dita scheletriche nella tua direzione, mescolando improperi a oscure parole arcane. Dal suo dito esce un'onda di energia negativa che fa causa nel tuo corpo ok, causa nel tuo corpo delle ondate di dolore atroce. Devi farmi un tiro salvezza sulla costituzione. Dai, Giulio, costituzione te. Avessi avuto un più 3 se fossi rimasto lì. Beh, magari ancora sta precipitando. Ho fatto 11 di dado. Che cos'ho? Non mi ricordo quanto è. Avrai la proficiency. Se sei guerriero, credo sia anche. Sì, ho la proficiency, quindi 14. Direi che ho fatto 16. No, aspetta, 16, 17. Ok. Vedi un pochino la luce, diciamo, della pietra che scherma un po' queste onde di magia necromantica. Ma non abbastanza. Il dolore penetrano il tuo corpo. Devo tirare dei dadi. Vinco. Sì. Ah, dove sono qua? 75. Ok. Ma i corvi non li ha liberati, Giulio? Sì? No, i corvi sono ancora lì. Non ho avuto tempo. Sono stato preso da un'aquila gigante. sbattuto lì. Le fitte nel tuo corpo ti causano 36 danni necrotici. Ti cazzi. Quasi meglio cadere. Non è tanto, poteva andare molto peggio. Poteva andargli peggio, sì. Sì, poteva fallire. Poteva fallire. La salvezza e prendere il doppio. 36. Merda. Che idea idiota, Arci. No, era bella in realtà. Beh, è perfetta per sbracciarsi di Giulio una volta per tutte. A mia difesa, Giulio, posso dirti che io pensavo che su quel coso potessi depositarvi tranquillamente in piedi e voi la poteste chargeare, perché me lo immaginavo come un vascello. Comunque, in ogni caso la mobilità del vascello è limitata e quindi non riesce a ritornare nella nebbia. Sì. Vai con sta palla da fare. Non ho preparato la magia. Tranquillo. Ma lo puoi fare anche adesso e basta. Catta? Sì. Se io guardando la strega dico dammi un po' di zucchero, baby, mi dai baby. Lei fa. È il mio turno. Grande citazione, è il tuo turno. Io la vedo? Sì. Sì. Ho visuale sulla strega? Hai visuale sulla strega dentro al suo vascello che le provvede copertura. Buona a chiamarlo vascello quando è un triciclo, che ci confondi le idee. Sul suo galeone monoposto. È un galeone monoposto. È un galeone monoposto. Mi immagino quello di Avengers, presente la base su cui si sposta, esatto, lo shield. Però c'è un unico. In realtà è lo scudo di Capitano America. No, sì, ma in realtà è grande così, solo che è tipo in verticale e sopra c'è un posto. Tu hai la visuale su di lei, ma il teschio le provvede una copertura di tre quarti e poi vedi Atanas che si sta cercando di sopravvivere a penzoloni da questo teschio. Lasciarmi cadere. Allora uso la mia azione bonus per far saltare Hex dalla cosa che ho ucciso, che era la casa, alla strega. A lei. No, cosa? Chi cosa? Chi fai saltare? La maledico sulla destrezza, no, sulla forza, non si può fare il grappolo. E invio Eldritch Blast. Ok, a che cosa mira la strega? Sì. 19 e 26. Tutte e due? No, 19 non lo so, aspetta, fammi vedere. 26 di sicuro sì. 19 non siamo sicuri? Catta, vediamo. No, perché non mi ricordo. Giulio che non lo dice. È un po' spiacevole se 19 non prende. Ha un più 5 in copertura. Vabbè, che io vado in basso. Okay. Tanto non abbiamo abbastanza 19 non prende. Vergognarmi. Ok, allora solo uno e faccio Archie. 20 danni. Nice. 20 danni. Ho tirato 10 col di 10, 6 col di 6 più 4 carisma. E allora ritira. Ritira. Esatto, ritira. Dovremmo metterla questa regola, Catta. Ma vale anche per il master, quindi non credo si può. No, perché solo alcuni mostri hanno non tutti. Sì, ma il master è un mostro che lo può fare sempre. Bardi strano. Tocca. Allora, io sono quindi nel fango della palude, caduto, ok. Esatto. Giulio, quanti punti ferita ho? Il doppio dei miei. Nei 39. Anzi, quasi il triplo dei miei. Per un secondo, io quando hai fatto così, pensavo volessi che inquadrassi le mutande. Ne ho 39. Allora, il discorso è questo. La casa è... Cioè, lei è a 40 piedi da noi? Di fatto l'ho messa indicativamente qua, sta sorvolando questa zona. Sì, ma... però Giulio te l'ha un po' tirata giù, l'ha un po' tipo inclinata. No, per capire, se io tipo vado sopra la casa, potrei essere a 30 piedi da lei? Sì, ma non è abbastanza movimento per andare sopra la casa. No, no, vabbè, ok. Mi muovo comunque verso la casa e nel frattempo mi faccio lay on hands della differenza tra dei punti che mi mancano. Che è Rez, basta toccarti, vai. 37? Ok. Giusto? Sì. Dove arrivo? Perverso, divento un gorilla gigante e ti lancio. Ma dove arrivi? Arrivi qua dietro gli scarabocchi, che è il muro che è stato distrutto dalla scimmia. Quindi non riesco a salire sopra, o sì? Sì, sì, sei arrivato qua. Detto. Quindi vedo i corvi, per dire. Vedi i corvi, esatto. Però non posso liberarli. Vedi i corvi, il forziere, la vasca incrostata di sangue. Però non posso liberarli adesso, ho fatto il massimo, giusto? Hai usato la tozione per curarti, se ho capito bene. Sì, lay on hands. Non dovrebbe essere gratuita. Sì, esatto, non dovrebbe essere gratuita. Adesso guardo. Ma davvero il titolo è tipo The Dark Soul? Sì, esatto. Oddio. Che cosa? Sta aprendo la finestra o chiudendo la finestra. Vabbè. Adesso... dopo di Vardy, pranzi preparata. Posso rompere la cosa, rompere il teschio. Cosa hai detto? Posso rompere il teschio in qualche modo. Lo puoi attaccare. Posso prendere lei e buttarla giù? Sì. Quello è un po' più complicato. Sì, giù, tu sei ancora appeso giù. Cioè, giù, non ho sentito bene, hai detto posso prendere lei e buttarla giù? Sì, sì, dico, per un piede giù, lo dice per il braccio con cui prima mi ha sparato il coso, cioè io sono appeso, sforzo e la tiro giù. No, ti servirebbe una prova per arrampicarti fino a dove sta lei e poi dopo, al giro dopo, la puoi provare a buttare giù. Ma lui dice di farlo da appeso. È che è sotto, è appeso sotto, quindi deve riuscire a risalire mentre sta volando, e non è proprio semplice. Ok, metto la però sì, dato che sei lì, vedi che il teschio è stato danneggiato dalla palla di fuoco precedente e che di fatto è un teschio di un drago ed è fatto di osso, quindi... Non è di sicuro infrangibile. E vedi anche Giulio nella mia testa, rega, sto coso sta cambiando forma ogni descrizione che fa. E vedi anche Giulio, tricino, ti accorgi che tu normale, ci sei anche attaccato, quindi dovessi distruggerlo cadresti nel stare attaccato e beccarmi un'altra un'altra cosa non è fattibile, quindi giù, Giulio. Tira giù la strega. Non può giù buttarsi e qualcuno di noi giù. Lo prende. No, metto... Scusa, ma le due cazzo di aquile non possono stare dietro di me per prendermi? Sì, ma nel loro round. Tipo se è Giulio che cade, le aquile... nel loro round, tu puoi aspettare. Per preparare l'azione del round delle aquile. Ma le aquile non hanno 20 iniziativa. Ma hanno già fatto in questo turno. Sì, infatti agiscono prima della strega. La strega quanto ha fatto iniziativa? 20. Sempre tanto. No, e si dice vinco, non 20. È allagato. Vabbè. Allora, metto la pietra al sicuro. Ok, va bene. Cioè, posso ingoiarla sul serio? Puoi provarci, poi se soffochi sei lì. Cioè tu, non ho capito Giulia, perdonami, ma tu sei quindi sei lì appeso, che stai pensando e fai? Però... puoi tenerla in bocca, sicuro non sa dove mettere. Vabbè, per ora la tengo in bocca. Puoi tenerla in bocca tranquillamente. Vedete Giulio che ha le guance che brillano, che illuminate di verde. Per ora la tengo in bocca. Ok. Anzi, no, dai, una cagata questa, la metto, che ne so, sotto l'armatura, da qualche tasca sicura. Te la infili. Mangiala, mangiala, mangiala. Giù, giù, giù, giù. Dopo ci proverò. Bicchieri d'acqua. Uso action, no, boh, second wind o action surge, quello per recuperare i punti ferita. Second wind. E mi recupero, no, grandissimo. 12 punti ferita. Che quella è gratuita, tra l'altro. Sì. Bonus. Adesso puoi è bonus, adesso puoi cadere. È bonus, esatto. E nel senso, adesso se cadi sopravvivi, questo volevo dire. Attacco sto cazzo di teschio. Dai. Allora, uno ha fatto 7 più 8, 15, e l'altro 19, che è critico. 19 colpisce con entrambi. Attenzione. Cassa prepari la idea della caduta. Ah. 4, 8, 12, 22 danni. Ok. Forse puoi fare praticamente, sì. Vedi, l'aver usata per uccidere la capanna prima che la capanna ci disse lui. Sfondi praticamente infilzi la tua spada nelle crepe del teschio e questo improvvisamente comincia a perdere quota, ma in maniera abbastanza graduale, quindi puoi decidere se rimanere attaccato e schiantarti insieme a lui oppure sganciarti quando l'altezza diventa tollerabile. Mi sembra facile la risposta, no? Mi schianterò con lui! No, mi sgancio. Parte della nave, parte della nave, parte della nave. Paracadutista! Ok. Atanas della Folgore. Bellissima. Tu atterri qua. E cioè, in realtà, che appena lo rompo, praticamente io mi sgancio abbastanza presto. Cioè, ma sei molto in alto ancora. Sì, ma anche se sono a 20 piedi mi sgancio, cioè mi frega. Perché ho più paura di... Cioè, ho più paura. È più pericoloso se cado vicino alla frega. Mm-hmm. Ok, fammi un athletics per attutire la caduta. Scusa, i 20 piedi sono poi 2d6, se mi frega. 12. Neanche lui posso provare a cadere. Cadi di collo. Se ne può prendere un po' meno. Ti fai un danno. La strega, vedete, che cade nella zona dove tu, Atanas, avevi visto che c'era un giardino. Quello pieno di vegetazione lussureggiante. Ora arriva le aquile, prendono. Non è quella, non è quella del... Non è quella, esatto, non è quella. Ti può arrivare esatto le aquile, no, via, via, via, bestiaccio. Trasporto. Ma non è la parte dove c'era il serpente, però, giusto? Il serpente era sud, però non puoi... Sei abbastanza confidente che dei serpenti ci siano un po' dappertutto. Da te è precipitato da noi? È abbastanza, eh? È abbastanza. Però tutti la vediamo, la zona dove cade. Beh sì, c'è lì. Anche perché sicuramente distrugge un'altra parte di edificio. No, ma in molte zone i tetti sono già crollati. Però sì... Se arriva addosso a un muro lo tira giù, chiaramente. Però diciamo è atterrata abbastanza sul morbido perché è una parte della casa che è stata invasa completamente dalla vegetazione più selvaggia. E tu hai tirato casualmente che finiva lì oppure? Ho visto la traiettoria che aveva preso lei, che cosa c'era, e dopo le robine c'è il giardino, quindi era molto facile che finiva lì. Comunque sì, rispetto a te il giardino è a 45, inizia a 45 piedi. Arci, la strega avrà anche cercato di attutire la caduta. E io a che distanza sono da Giulio? Giulio è qua, in linea d'aria sono 30 piedi, poi vabbè ci sono dei muri in mezzo ma conta poco. Quindi scusate, mi sono perso, questo era Atanas che ha battuto il coso. Allora, la capanna è morta, l'alce è morto. Sì. Io posso ritardare l'azione dopo le aquile. Dopo le aquile. Se è l'ultimo del turno. Allora se preparo l'azione dopo che agiscono le aquile. Ok. Ma meglio. Non puoi tornare orso, scusa, tipo? Ma così non perdi due turni. Cioè, non ti conviene, cioè, nel senso, non ti conviene fare un turno e poi tanto giocano le aquile e dopo fai tu. Allora, dipende io... cosa vuoi fare, non so. Esatto, se io faccio una cosa che richiede la mia concentrazione, perdo le aquile. Ok, quindi non puoi fare quasi niente. Esatto, se invece... Ah, sto attento però. A parte preparare... Giulio. Preparare sì, l'azione per lanciarne incantesimo richiede concentrazione. Quindi se tu adesso dici va bene. Prepara un cantrip, perdi le aquile. Say no more. Ok. E mi trasformo. E... Perde le aquile a trasformarsi? No. Non è concentrazione. No. Già. Mi trasformo. Si è diventato gigantesco. No, aspetta un attimo però. Scusa un attimo, le... Ah, Yarcio, nel tuo ambiente naturale, il giardino di un palazzo, cosa? In realtà è dove? Lui ha avuto il suo addestramento da druido, il giardino di un palazzo. Esatto. Nei giardini sotterranei del palazzo del re dei nani. Ma come funziona con le azioni bonus? Uno ne può fare un milione o ne può fare solo comunque una? Una? No, ne è solo una a turno. Okay. E se usi un incantesimo per lanciare... Se ci lanci un incantesimo, poi puoi lanciare solo un cantrip con la tua azione. Però posso anche attaccare. Puoi attaccare, sì sì. Okay. Però dico un altro incantesimo... Ok, su così, canta. Sì sì, ho capito. Quanta vita ha, Vez? No, io sono full ora. Quanta vita ha Vez? Ok, full. Giulio, quanta vita? 27. Perfetto. E perdo la concentrazione che ha sulle aquile. Ok. Vado da Giulio che ha 30 piedi, giusto? Ok. Quindi sei ancora un nano. Sì, sempre stato un nano. E... Sì, esatto, mi trasformo. E lo trasformo in un Tyrannosaurus Rex. Sì! Tipo, intanto si vede tipo Giulio che tipo vede Argi che si avvicina di corsa tipo a terra e fa no no basta basta. Divertente è che io divento l'animale che mantengo solo la mia personalità e il mio allineamento, cioè quindi ti trasformi prima mi hai trasformato un gorilla psicopatico assassino, adesso non ti hanno dato psicopatico assassino. Il gorilla gigante anche ma il tirannosauro ci mangia. Il gorilla che volendo poteva anche mangiare, anzi forse la più dolorosa. No, è comunque con la personalità di Giulio, quindi cercherebbe comunque di darci fuoco e viste le zampine del tirannosauro secondo me ci mette un po'. Cosa divertente sarebbe, era carino poter usare le aquile contemporaneamente e calare la strega come la capra. Cioè, ora io sono un tirannosauro. Va bene. Sì, hai 136 di vita. Che sì, ho visto, le statistiche sotto. Però fai 4 di 12 più 7 di danno. Sì. E puoi mangiarla forse. E fai più 10 al colpire. E hai 2 attacchi. Ma comunque, come può Arci conoscere un tirannosauro? Nel giardino del giardino, è tutto bellissimo. Scusa, nel palazzo del re dei nani c'era lo zoo e c'era un tirannosauro. È tutto bellissimo. Niente a parte animali e dinosauri. C'ha forza 25, 136. E poi cattami. Challenge rating, grand target. E basta. Passo. Target level, challenge rating. Ok. Comunque io sta avventura sono diventato un mezzo sciacallo con gli occhi tipo da opposto. Ormai la cosa non ti preoccupa più. Un T-Rex e prima o poi lui può mandarlo, però vabbè. La cosa non ti preoccupa. Bellissimo. Alla fine ti meriterai il tag mutaforum. Vabbè Giulio, con 27 di vita ci sei. Hai 4 di 12 più 7? Più? No, ma poi c'è anche la cosa che lo tiene bloccato volendo, eh. Sì, sì, se colpisce deve fare CD17 per fuggire. Però non sa tipo ingoiare. Sì, ma non posso fare lo stesso attacco contro lo stesso bersaglio. Sì, è vero. Cero, Garrosh, tocca a te. Ah, scusa. Oddio. Ci sta. Tu sei qua dentro che hai ucciso la spaventa passer. Sì, quindi niente, perderò la mia ira perché in questo turno non attaccherò, meno che non posso colpire il muro. Infatti quasi quasi. Puoi farti dei danni. Quanti punti ferita ho io? Quanto è qualcosa, ma posso 59. Quindi da me ad arrivare alla strega quanto c'è? Posso chiedertelo? No, bellissimo questo. Sono 80. Hai trovato un altro animale in cui trasformarmi? No, però ci starebbe se uno di noi cavalcasse Giulio. Provateci. Beh, Giulio. Antico, peccato che sta campagna finisca al 10. Quello che se voglio farmi anche solo un danno, perdo, cioè un'azione comunque. In cosa volevi trasformarmi? Guarda, oppure puoi attaccare qualcosa. L'Indominus Rex. Quello che è qualcosa, non, cioè intendi un compagno. Rex. Oppure? Non c'è più niente. 4 di 12 più 17. Ma dove lo trovi? Lì. Nella capanna ci sono le due gabbie con dentro i corvi. 186 di vita. Dice, la mia ira dice che se per un turno non colpisco, stealth non attacco, né subisco danni, cioè la perdo. Non so perché me lo fa vedere. Colpire belli in mezzo. Esatto. Ma non ha molto senso, dai. Beh, non colpire i corvi. Sai, quello è il tuo piano. No. Hostile creature. Ah, ok, devi attaccare una creatura ostile. Ma perché sei andato nella capanna? Non ho capito. Per uccidere lo spaventapazzer. Non so che manuale sia, però effettivamente Giulio. Vabbè, convergiamo tutti sulla strega. Sì. Ci arriverò fra tre turni, tipo. Probabilmente arriva prima lei su di noi. Beh, tu fai 70 piedi. Sì. Vabbè, io in realtà non so come la vedi tu, posso anche evitare di girare gli angoli, io cammino sui muri, posso tirare dritto, saltellare. Sì, comunque devi comunque scendere da questo tronco d'albero su cui eri salito, quindi un po' di movimento lo perdi anche lì. Arrivi qua e vedi la gemma. Aspetta, posso farti una acrobazia? Se non fosse parte di me. No, aspetta, faglielo dire a Katta, perché questo è bello. Sì, arrivi qua e vedi un tirannosauro. Fa sempre ridere. Aspetta, no. Forse l'hai visto anche da prima. L'hai visto anche da prima. C'è un tirannosauro Rex. Si nota abbastanza facilmente. Con le mutande di Giulio, però. Questo puzza di Patk. E niente, basta, mi fiondo. Vabbè, arrivi. Basta. Va bene. Distruttore di ecosistemi. Garrosh. Allora, le acque non ci sono più. Ok. Vai, sfortuna. Misfortune. Sfortuna? Sì, io lo vedo il tirannosauro. Direi che lo vediamo tutti, penso che sovrasti. Sì, lo vedi. Entro dentro la casa e mi sto dentro. Va bene qui dove stai o vuoi spostarti in un luogo un ancora quadretto più a destra? Ok. Cos'è? Perfetto. È la zona misteriosa. Come si chiama? The Scary Door. Beh, anche il triceratopo comunque figo. la più umile delle creature di Dio. Cosa sta succedendo? È la puntata di Futurama. Vabbè, gli alieni vengono sconfitti. Va bene. Questo era sfortuna. Vardistran. Sono dentro la capanna, no? Eccolo! Va bene. E sono sì, dentro la capanna, no? Dentro la, la casa. Non furono nelle armi, nelle bombe a sconfiggere gli alieni, e ma sono reso delle creature di Dio. E niente, direi che se vedo i corvi, libero i corvi. Ok, allora, i corvi sono dentro queste gabbie rinforzate. Per liberarli... Ne frega, adesso ci torniamo dopo. Magari dopo moriamo dalla strega. Chissà, allora ancora di più chi se ne frega. Era tipo la nostra... Ripeto che sono il paladino. Se sopravvivono i corvi. È vero, scusa. E siamo qua in teoria per liberare loro. Così. Esatto. Così, per contestualizzare. Oh. Oh, non mi ricordo. Allora, giusto. Cos'è? Ecco la strega. Ma basta, è con la ATH. Basta, Vez, buona, siamo in Italia. Dai, fallo con l'H che l'ho posto. Si sta ribaltando la situazione. Lo vuoi con l'H? Sì. Quindi, sì. Hatanas. No, A-T-H. Atanash. Va in fondo, Atanash. Ok, le gabbie sono chiuse a chiave, puoi provare o a scassinare la serratura. Ok, riprova. Oppure, oppure a romperle. Vabbè, tiro una spadata. Esatto. Una prova di forza in cui puoi usare athletics. Altra lamentele, Mets? Cioè non posso tirargli una spada sul lucchetto, tipo? È la stessa, lo stesso tiro. Sì, ho la descrizione. Più, ho sempre più 8. Faccio 16 bene, per colpire. Non basta. 16. No. Le gabbia rimane chiusa. Prova ancora. No, Beh, se ho i corvi ti incitano e ti danno man forte. Se ho la spada posso fare un altro attacco. No, aspetta, come gli danno posso fare un altro attacco? No, vorrei facendo cra. Sì, ma fa peggio, quindi niente. Ok, tira un dado percentuale. Il master è troppo buono. 99. Ok, noti la superficie del tuo spadone che si riempie di crepe. Dai, quello d'argento, no, basta. Appunto. Le ultime parole famose di Sceo, vorrei far notare, il master è troppo buono. Vero, pensavo trovassi uno scamotage per fargli riuscire lo stesso. Sì, noti che il lavoro che ha fatto non è stato proprio eccelso e dopo un po' di colpi che ci dai, il rivestimento comincia a creparsi e a... Quello dell'argento? Sì. Ma il mio martello non è mai successo. Ah, quindi sto pessimo. Non ancora. Atanas. Ok. Che cos'è? Non so che verso fa che Secondo George Lucas una specie di stridolio strano ma molto forte. Non penso, che lo si possa sapere in assoluto. Di fatto erano dei polli giganti, quindi potresti fare anche... Sì, non sappiamo in realtà che verso poteva fare. Esatto, quello. Tra l'altro il tirannosauro però probabilmente era così come ce lo siamo immaginati, mentre quello che fa ridere è tipo il Velociraptor, che non c'entra assolutamente nulla con Jurassic Park. Sì, perché erano tipo degli uccelli, ma erano piccoli avevano le piume. Sì, quelli li chiamano Velociraptor, ma sarebbero dei Deinonychus, come può confermare l'esperto in dinosaurini, che spero ci stia ancora seguendo. No, i Deinonychus erano più simili agli struzzi, no? Insomma, più o meno come dimensioni siamo lì. No, ma li fanno anche vedere in Jurassic Park dei Deinonychus. Ma in teoria anche i colori se li sono tipo inventati. Però lì c'è la storia che li hanno clonati usando anche del DNA di rana, quindi ci può stare che in effetti quelli non siano dei veri dinosauri, ma degli incroci. Comunque, dopo aver fatto il verso del T-Rex... Allora, tu hai due nani appetitosi sotto i tuoi piedi. Cioè, e sei in mezzo a una palude. Non lo so. Allora, no, vediamo la mia personalità e il mio allineamento. Esatto. Sì, ho capito, ma la tua memoria rimane, cioè se tu, cioè, sai che ti ho trasformato io. Allora, vediamo cosa dice l'incantesimo. Cioè, se sai che io sono Pat e che lui è Sheo, non è che improvvisamente non ricordi più un cazzo. No, no, non mi ricordo. Vabbè, cioè... Però se mi fai dei danni resto in ira. Sì. Mantiene l'allineamento e la personalità, che non so cosa sia meglio. Sono un T-Rex caotico malvagio. Esatto. Vabbè, vado dritto contro la strega. Comunque voi immaginatevi la gente che ha trovato tipo i fossili di questi, che emozione che deve essere stato. Ha proprio 30 anni, Vez. No, cioè, oggettivamente, cioè, una roba pazzesca. Pensa quando li trovavano nell'antichità, che dicevano, ah, sono i draghi delle leggende, eccetera. Pensa a quello che troverà il fossile di un tirannosauro con di fianco al fossile di una strega. Cosa? C'è qualche nano. Di quanto ti muovi? No, aspetta, ci guardo. Te lo dico io, ce l'ho davanti. Come c'è davanti? Una... Cioè... No, e non ti muovere. 50 se, piedi. Se ti muovi... Ah, sì. Ok, dopo c'è Patrick. Quindi 50 piedi vai dritto, arrivi in mezzo al giardinetto. Beh, te lo dovrei dare dalla strega, no? Ce la trovo. Arrivi qui in mezzo. Tu sei in mezzo alla vegetazione lussureggiante di quello che un tempo era un giardinetto ordinato e molto elegante. Non vedo la strega. No, ma il T-Rex non fa quella cosa tipo... Vedi? Esatto. Mm-hmm. Vedi il teschio schiantato. La mia passive perception è 14. Ok. Allora do delle codate a caso in giro. Ok. Bravo Giulio. Tipo per spianare la vegetazione. Il dinosauro psicopatico. Vedi lo scheletro che si è scattato qua. Cosa vedo, scusa? Il vascello, il galeone, che si è schiantato qui. Arci, puoi trasformarlo in villa. Cosa? Puoi trasformarlo in villa. No, sì, perché sennò io perdo il T-Rex. Ah, è vero. Peccato. E ha finito le metamorfosi. Le tue codate fanno fuggire dalla vegetazione quattro serpenti giganti che stavano lì a... Sono il rettile più grande di voi! Esatto, il re è arrivato. No, non sono così grandi. Credo. Quanto sono grandi i serpenti giganti? Non come un T-Rex, direi. Comunque probabilmente anche il T-Rex aveva le piume. Ok. Quello dicevo prima, in realtà colori, piume, non ne abbiamo idea. Dicono che probabilmente aveva le piume anche il tirannosauro. Ma perché, però non erano tipo galline, avevano un po' di piume, era una via di mezzo tipo, credo. Sì, perché in teoria erano le squame, ma... Sì, erano tipo degli uccelli... Boh. Sono make. Dopo però il tirannosauro c'è serie. Patk. Io mi nascondo per bene dietro un muretto. Okay. No, in realtà no, non è vero, ho detto una cazzata, ho detto che pensavano ci fossero le piume, però adesso in realtà pensano di no. In nessuno di quelli? No, nel tirannosauro. Ah, ok. Dicono un'interpretazione più tradizionale e canonica in assenza di vere prove sulla presenza di protopiume. No, probabilmente ha pensato che è troppo bello in quello di Jurassic Park, lasciamo così. Ok. Io lo vedo una di queste cose da dove sono io. C'è un museo dove c'è una ricostruzione dell'accoppiamento dei dinosauri. Ci sono tipo due scheletri posizionati in modalità accoppiamento gigante, dove sei tu. Tu ti nascondi dove Cata, sei qua, scusami, o vai da un'altra parte. Sì. Tocca a te. Ho detto mi nascondo. Va bene dove sei qua o vuoi spostarti? Scappo un po' più lontanino da ancora di più. Sì, magari dietro due muretti, proprio in un angolo, camperato, come se fosse un videogioco. Una cosa, okay. Come si chiama questa campagna? Il nome ufficiale del... Curse of Strahd. No, maledizione di Katta. Letteralmente la sì. Questa è la maledizione di Katta, ma quella originale è la maledizione di Strahd. Ok. Curse. Ok. Quindi Curse of Strahd. Strahd come è scritto, che sono mezzo bel cazzo. Con la STR. Spoiler. ST? Tra la l'H è tra la D e la A. No, sì, tra la A, sì, dopo la Strahd. Sì. Tu metti un H ogni letto. Sì. Ok, questo era Patk che si nasconde. Dammi uno stealth quando vuoi. E Garrosh. Mm-hmm. Continuo la mia corsa. Segui il T-Rex. Sì, posso cavalcare. Ok, qui. Puoi provarci. Allora, a 45 piedi da te c'è un serpente gigante. Posso, cioè, ostile, posso ignorarlo. Sta scappando dal T-Rex ed è visibilmente agitato. E la mia ira quello avete già visto, raga, è una delle mie forme selvatiche preferite, quindi avete già visto sicuramente. Sì, sì. La mia ira è ufficialmente persa, sì, anche se colpisco adesso. Già, il turno prima non hai né attaccato né subito danno. No. Proseguo la mia strada. Proseguo verso T-Rex barra zona della strega. Tanto il T-Rex ha detto che si è messo a colpire in giro, giusto? Sì, sta facendo casino in questa direzione a 70 piedi da te. Vado in quel... Ah, 70. Magari faccio un primo movimento e poi dimmi cosa vedo. Esatto. Io, ragazzoli, vi dovrei salutare. Ok. Tanto come disposizioni direi che ho finito le metamorfosi, posso far solo che degli evocare animali o dissolvi magie. O dei cura ferite. O dei cura ferite. Giulio, esatto. Cosa dici? Vedi appunto... Sì, l'idea è quella di lasciare che Giulio ammazzi la strega insieme agli altri, direi. E tieni la concentrazione. Sì, ti tiro lo stealth cap prima di andare via. Sì. No, scherzo, aspetta, devo tirare veramente. Ci crede? 13 di dado. Dovrei avere un più 2 di destrezza. Ecco perché l'ha voluto sapere come si scrive. 13 di dado più stealth. Dov'è stealth? Furtività, più 2. Furtività. 15, totale. Ok. Bene. Buonanotte. Ragazzuoli, vi saluto. Ciao, facci vedere un'ultima volta. Ciao, Arci. Ciao, Arci, buonanotte. Fai vedere l'ultima volta. Vabbè, ci sentiamo per la prossima. Ma che schifo. Ma ciao. Cosa vuoi? Io? Facciamoci vedere. Povero Arci. Che schifo. Che è solo il video. Non ti preoccupare, ciao. Stava scherzando. Ciao. Arci. Buonanotte. Ok, Garrosh, arrivi alla stazione di movimento e vedi il T-Rex in mezzo alla vegetazione e c'è in mezzo alla tua strada questo serpente gigante. Per entrare nel giardino passi proprio sopra di lui. Ok, posso ignorarlo? Mi attacca, cioè lo evito. Non se sei Giulio nella mia campagna. C'è solo un modo per scoprirlo. No, vabbè, allora cerco di evitarlo, lo aggiro. Non voglio calpestarlo, okay. Nel senso, lo evito. Ah, è tornato Yak. Okay. Oh, grande Yak. Felice anniversario a Stefano Gamberoni e Ambra Masotti. Grazie. Yak, sono un T-Rex. Di noi cavalcasse giù. ma lo sa, mi sa. Okay. E poi da lì... Beati voi che siete sugli altri. È già il secondo o solo il primo, scusami? Sì, hai finito il movimento. Il primo era arrivato qua. Domenico De Francesco ci saluta, invece. Grazie. È un mio cliente, ciao Mimmo. Ovviamente tutti sono tutti amici di Sheo, quindi... Yak è amico di tutti. Beh, anche, anche Yak. Spesso musica. Spesso musica. E beh, vabbè, comunque so, nel... Posso chiederti cosa vedo intanto? Sì, vedi la, la vegetazione che sta venendo abbattuta dalle codate del T-Rex, e quindi gli animali che ci, ci abitavano stanno fuggendo spaventati. E qua vedi il teschio, il vascello galeone che è schiantato per terra. Mm. Ma non vedo la strega. Non vedi la strega. Posso fare... No, perché ho già finito due azioni. Non posso c'è arrivato lì. Non posso come azione bonus fare un perception? Me la regalo? È arrivato lì. No, non te la regalo. Questo era Garrosh. Ok. Oh, però non ci sarà bisogno perché... compare la strega da dietro un angolo delle rovine. Oddio, è fastidiosissima sta cosa, con la lag. Perché ogni volta che arriva la strega Vezza è dall'altra parte della mappa? È un classico di questo combattimento, eh. oggi è questo combattimento è andato così. Vet sta usando la tecnica Calvus. Esatto. bravo. Questo mi sembra adeguato. Va detto che io non ho mai giurato l'inimicizia per il momento, quindi... Mm. Ah, è vero. Perché non me lo fai vedere? Mi dici che puoi ancora invitarla fuori a cena. Mm. Dico che non sono così... Cioè, per me è più importante in questo momento effettivamente aprire le gabbie. Aprire le gambe. Sì, anch'io stavo. Avevo capito aprire le gambe. Ragazzi. Allora. La strega compare a distanza giusta per lanciare. Se te la porti a letto, poi è alle 120. 80 piedi, quindi. Ok. Ok, allora la strega vede il tirannosauro e comincia a cantilenare una serie di parole arcane che risuonano nella sua mente e nel suo cervello grande come una nocciolina. E no, non è vero, non può farlo. Ma comunque malvagio. Perché non si... Ma comunque malvagio. Un po' perché è malvagio? No. No, non ho capito bene, mi è arrivato questo, era ironico però. Non ho capito. Malvagio. No, un po' perché non è più un umanoide. Tutti i ruggiti del T-Rex nel franchise di Jurassic Park. Andremo avanti con tutta la serata. Ma chi sta? Sta la strega. Ok. Lei prova a usare la cosa. Provo a usare le sue abilità magiche per dissolvere la magia che sta trasformando Atanas in un T-Rex. In poche parole, lancia dissolvi magia. Atanas ritorna il solito Atanas di sempre. No! Così, Catta sempre la No. Quindi, però scusa, sapeva che era lui, che era lui? Sapeva che era una magia, non ci sono tirannosauri qui. Magari era un nostro, alleato che ci aveva raggiunto. Magari era Selvaggio. Effettivamente non lo sapete, sfortuna. Dai, tu sei almeno un tiro potevi fare. Ma Arcine è un altro di questi incantesimi? No. Almeno un turno, Catta. Lo so, ha tirato bene purtroppo, che la mangiava. Sfortuna. Okay, il concetto era molto quello. Io mi muovo. Giulio deve fare un tiro per le crisi di identità. Che peccato. Mi sento ancora un T-Rex. Ma era bellissimo. Fa il giro a... il serpente gigante. Dispiace anche a me. Come hai detto, hai il serpente gigante davanti. Fuori sì. Dalla casa, possibilmente non in corpo a corpo con il serpente gigante. Ok. Puoi arrivare fino a qui. Ok, vedo da lì... Cosa vedo? Vedo Atanas. Sì. Allora faccio... Vedi il teschio schiantato. E la strega non la vedo. No, è troppo in là. Allora faccio un Eldritch Blast. Ok. Giulio, hai sentito, sei contento? Sì, un Eldritch Blast su... Catta di lavoro l'ha fatto solo perché per impedirmi di mettere il ruggito del T-Rex per la prossima mezz'ora. Quella effettivamente è un'ottima motivazione. 20 e 9. Lo stesso. No. Ma tu pensi immagino che il T-Rex con la gemma... Potevi ingoiare la gemma da T-Rex? No, perché era parte di me. Era, quindi di fatto la già ingoiata. colpisci con 29 il serpente. No, 20 e 9. Ok, 20 colpisce, 9 lo manca. 12 danni. Lo ammazzi. Ma non perdere tempo con i serpentelli. Beh, gli ha liberato la strada. Bene, questa è la sfortuna. Allora, quindi io capisco che questo è che è stata fatta male la spada, giusto? Non è che sia una magia sulla gabbia. Era stata fatta male la spada. Ok, via sta merda, dentro quella seria e riprovo a liberare sti corvi. Dai, Athletics. No, vabbè, c'è anche la spada. Vabbè, comunque questo è un 27, se non basta, dico, mi spiace. Liberi la gabbia e lo stormo di corvi si libero nell'area. Adesso vabbè, userò questo per lì. E vedi che quasi tutti gli uccelli volano incazzati verso la direzione dove hanno visto la strega, buono. Tranne uno che cade a terra svenuto. Ah. Cioè il corvo proprio? Sì, uno dei corvi presenti è, diciamo, privo di sensi, però è ancora vivo. Gli potrei fare gli ultimi tre di Lay on Hands che ho per curarlo. Ce ne basta uno volendo, di fatto. Se vuoi tenertene due di riserva, gliele uso tutte e tre, dai. Ok, il corvo riprende forma umana ed è il vostro caro amico Elvir. Ah, buono. Che si riprende e dice: oh mio Dio, cos'è successo? Ho avuto un incubo terribile. Era un T-Rex. C'era un gorilla gigante e poi c'era un T-Rex. No, non so di cosa stia parlando. Stiamo combattendo la strega che vi ha rapito. Riesci a... Però ti vedo debilitato. Rimani qua, al sicuro. Non so cosa mi è successo, ricordo solo il buio e il... Ma era stato ucciso dalla bestia tentacolare. Beh, lui mi conosce in teoria, mi ha già visto. E allora è l'altro. Sì, ti riconosce, infatti è rassicurato dalla tua visione. Vabbè, gli dico, rimani qui a riprenderti, finiamo il lavoro. E poi posso muovermi in teoria io, no? Sì. E mi muovo del massimo verso la strega. Ok, Elvira è morto. Chiedi se il corvo ti esatto. porta sulla strega. No, lui è tornato. Puoi volare. E gli altri sono partiti già, mi sa. Ti muovi praticamente insieme a questo stormo di corvi. Sì. Sì. Che praticamente sei circondato da... tipo e anche voi gli animali, lo vedete la natura arrivare. Che si ribella alla strega. Ce n'è almeno praticamente uno che caga sì. in... almeno uno che caga in testa vezza. No, perché li ha liberati, quindi sono tutti molto quindi dovevano andare tutti, in realtà stavano tutti tipo a scagazzare in giro perché non avevano il bagno. No, c'era la facevano sul fondo della gabbia, sì, infatti c'era un tanfo orribile. Ok, quindi i corvi sono tutti incazzati che stanno andando verso la strega. Atanas, mi tolgo a quanto distante da me la strega? Strega distante 60 piedi. Sto cazzo. Vado, mi metto in modo che non sia visibile da lei. Sì, in copertura. Cioè, magari mi avvicino tipo in alto. Allora, diciamo che sì, lo può andare o da qua o da qua. È lì dove avevi il mouse prima. Qui. Ah no, posso anche circondare dall'altra parte. Sì, vado di là. Sopra o sotto? Su. Su. Ok, dovresti arrivare tipo qua. E qui sei in copertura. Ok. Finché lei sta lì, ovviamente. Vabbè. Ah, ma lo schiude... cioè continui a segnare il teschione, ma in realtà è tipo un relitto ormai. Sì, è schiantato al suolo. Però è ancora integro. Però è inerme. Questo è schiantato al suolo. Non sta rispondendo alla tua domanda. Infatti, cosa vorrà dire? Ma quindi non si può fare nulla. Beh, si trova lì, sta valutando. Toccherebbe a Pasqua. Secondo me sarà tipo bomba orologeria, tipo da 3 turni esplode distruggendo tutto quello che ha attorno. Ah, il teschio dici, pensavo Patk. Ok, Garrosh. Io... Beh, Patk non fa nulla. Strega, mi ha detto che sta nascosto. Ah. Potrebbe... Boh. No, sta nascosto. Sparare i rinoceronti, potrebbe. L'unica cosa che potrebbe fare sarebbe evocare animali, però onestamente i suoi... Va bene, li terrei per curare. Sì. Ah, c'è anche quello da dire. Va bene. Vai con sta spada di fuoco. Vado con sta faccio palla di fuoco. Finché non siamo lì. Era bella la cosa del circondamigare, di circondarla, però sono dal lato stesso di Giulio, per cui è un po' ridicolo forse seguire Giulio. No, che stavi cavalcando il tiranosauro, ma è diventato Giulio, quindi sei sulle spalle di Giulio. No, è che anch'io volevo evitare di trovarmi in mezzo al giardino scoperto, quindi la tattica era la stessa di Giulio, a meno che non possa andare dall'altra parte. In teoria sì. Cioè, puoi andare Giulio, ma giù. Vedi che faccio bene a rimanere indietro, pertanto voi ci fate un po' di cose. Grazie, tu sei l'unico che ha full vita. Attraversi... Non portarmi vicino al teschio volontariamente, cattivo. Io 27 PF, cioè se mi fa un altro attacco un po' di più, infatti, no. Ma infatti è drammatico. Non che abbia tolto. Di non portarmi volontariamente accanto al teschio. Ma non riesci ad attaccarla? Non ci arrivo. O anche andare davanti? 75 piedi da lei. Io faccio 75. E soprattutto la tua visibilità è 60, quindi non sai esattamente dov'è. Intuisci che le sue parole quando ha lanciato l'incantesimo veniva in questa zona. Fai così, comunque sì, se fai il giro da sotto arrivi senza prendere attacchi d'opportunità dai serpenti, arrivi qua. Ok, ma senza andare così in basso, perché ho capito che lì c'è il passaggio, dove c'è quella specie di mucchio di sassi, quello un po' più in alto a destra. Qui. Cioè fai un quadretto a destra. Che cazzo. Io mi metterei lì, perché così se lei sbucca la salto da sopra. Posso posso saltare quel, oltre quel mucchio di sasso. All'aria deve arrampicarti, però. Vabbè, vabbè, sì, puoi. Sì. Ok, sta a lei. Io sono un misto montone puma, cioè. Puma. Ok, vediamo chi di voi ha il vostro stealth passivo, quant'è? Garrosh e Atanas. Lo stealth passivo? Sì, qualsiasi abilità ha una passiva, che è 10 più il modificatore. Ah, e se avete svantaggio è un meno 5. 12 meno 5, 7. Cioè, quindi 10 più la destrezza? Okay. Sì. No. Ah, 12. Anch'io avrei 12, ma lo svantaggio. Lo svantaggio? Perché hai svantaggio? Perché per l'armatura. Perché l'armatura pesante. Ah, a cazzo, anche io? No. No, boh, non mi sono mai nascosto. Non penso che tu abbia l'armatura pesante. No, non credo neanche io. Barbari non hanno armatura pesante. No, infatti. No, perché io uso, è vero. Tu hai dei più all'armatura, ma per la tua pelle, queste puttanate. No, no, io non ho l'armatura. Cioè, per i muscoli. Esatto. Se ricordo bene, 10 più bonus di competenza. No. No, ma è sicuro che non hai l'armatura pesante. Più... Non credo che neanche sia competente, Barbara. Perché io metto destrezza e costituzione, quindi ho 10 più 5 di costituzione. Sì, più 2 di ma il barbaro non, è neanche competente in quella roba. Finire, io, più 2 dello scudo, non ho proprio l'armatura. Ma non c'entra. Stavo facendo il conto e non ho l'armatura, di fatto. Sì, però ripeto che non saresti neanche competente, quindi. Quindi sei analfabeta in materia, per farti capire. Esatto. Quindi sta zitto. Scatta, ma non puoi anche farci vedere la tua faccia la mentre queste cose invece di farci perderei tempo. Esatto. Sentite la strega lanciare un nuovo incantesimo e l'aria dentro in questa zona diventa quello che avete visto prima, quindi si riempie di gas tossico e velenoso e di un fumo giallo denso. Spiacevole. Esattamente. Quindi dovrebbe essere così. Ma che è sfortuna che ha disegno di magia? No. C'è la... Quindi no, solo colpendola e sperando che perda la concentrazione. Mi ha preso in pieno giugno. Ok. Andiamo le stelle. Ok, questa era lei. Ma quindi prega. È quell'area, quel sfortuna. Quadrato lì? Sì. Sì, quindi è pieno di gas tossico. Chi c'è dentro quell'area? È il suo turno lì? Esatto. Quindi non solo il gas tossico, ma anche copertura totale. Quindi io non vedo niente. Sì, La visuale è oscurata, ma tanto tu sei a... La strega è quella giù nel cortile o quella lì? Ah no, sì, quella tutta a destra. Ah, quella là, ok. C'è sempre la nebbia che vi fa vedere fino a 60 piedi, quindi paradossalmente non vedi neanche la nube da dove sei. Poi adesso tocca a te, sfortuna. Cosa fai? E comunque okay, vedere una nube in una nebbia è un po' difficile, credo. Però se esatto. Guardiamo... Uno per la sentiamo. Ok. Cosa hai detto, Sheo? Sì, la sentiamo la strega, perché comunque dice... Sì, lanciare l'incantesimo che ha componenti verbali vuol dire che arriverà parlare ad alta voce. Quindi noi più o meno capiamo dov'è. Sì, sì, beh, la direzione la sapete. Vai, no, perché lei adesso si è spostata prima di fare questo, quindi intuisco che si sia spostata. 9 danni il primo, 8 il secondo. Ok, ne muore un altro. Immagino il più vicino. Poi ti puoi muovere. Mi muovo avanti di 30 piedi. Yes, fino a qua. Ok, poi questa è la sfortuna. Vardistran. Quindi continua a cavalcare lo sciame di corvi? Beh, sì, io vado verso la direzione dove sento i rumori. Aspetta, però. Siccome potrei usare una bonus... Ricordatemi una cosa, la strega solo se la colpisci col magico gli fai male, vero? Non lo sapete, di fatto non l'avete ancora colpita. Non l'abbiamo ancora colpita. Però abbiamo già affrontato delle streghe. Le altre l'argento bastava. Ah, l'argento, minchia. Vabbè, quindi ce l'ho io lo spadone d'argento. Vabbè, però la conferma te l'ha data il master, ti ha tolto l'argento poco fa. No, non me l'ha tolto. Funziona comunque ancora, no? Lo spadone è ancora utilizzabile, è meno efficace rispetto perché la lama non è più affilata. Ah, quindi cioè quello d'argento non lo posso più usare, insomma, mi stai dicendo. Sì, lo puoi usare, ma è meno efficace. Cioè, quindi sì, ma non va, non funziona come arma d'argento, mi stai dicendo. C'è solo un modo per scoprirlo. Vabbè, faccio... aspetta, vediamo se ce li ho ancora. Faccio l'arma magica lì, quella puttanata lì. Magic Weapon, sì, ci sta. Sì. Faccio Magic Weapon, va? Che tanto è gratuito, cioè una bonus action, e quindi e quindi faccio comunque i miei due movimenti. Se arrivi qua dietro sfortuna, sì. Rende solo magico, anche dei danni in più. No, la rende solo magico. No, fai anche più, no, colpire i danni. Per vedere. Tanto è a concentrazione, quindi probabilmente non ci arrivo neanche a colpirla. Esatto. Allora, questo era Vardi, strano. Ah, no, aspetta, però è un second level Magic Weapon. No, aspetta, non lo faccio, scusatemi. Posso non farlo? Hai fallito. Quindi sono... Catta, non lo faccio Magic Weapon, scusami. Ho capito. Non lo faccio. Okay. Ho solo uno di secondo. Ah. Tanto vale che lo uso per lo smite, per così... Sì. Inutile. O lo uso per il misti, adesso vedo. Sei. Sono 16 danni. Forse il misti lo uso. No, conviene. Mi sono bloccato io o vi siete bloccati voi? Vi siete bloccato il server. Fatto sta che sono io l'unico che potete sentire in diretta, amici del podcast e amici di Facebook. Non temete, però, perché vogliamo sperare che sia una cosa oppure no, oppure potrebbe essere un problema mio, una sorpresa. Potrei provare a uscire. Beh, non perdiamo la testa, però. Non perdiamo la testa. Beh, è diventato uno show solo per voi, amici di Facebook e del podcast. Riusciranno i nostri eroi a sconfiggere la malvagia Stega, Bubadì Bubadà, Balisalaga, non mi ricordo come si chiama? Riuscirò a capire io come funzionano i miei pochi e scarsi incantesimi? Riuscirà Discord a riportarci in diretta con gli altri? Intanto vi consiglio un video di Laz. Abbiamo fatto un vero casino stavolta. Ah, bello. In questo video non l'ha fatto però con la mia scatola, lo fa solo con... E ragazzi, solo mio il problema di Discord oppure è esploso a tutti? Direi che sposo tutti. Tra l'altro una bella pubblicità Discord, no, una cattiva pubblicità Discord. Qui non so se siamo tornati comunque in diretta, potremmo vederlo. Una buona domanda. Ah no, un problema mio di connessione, è andata. Cacchio. Niente, mi sa che è rimasto solo il podcast. Scherzavo. Un problema di connessione. Porca miseria. Allora. Ok. Allora. Quindi questo è andato sostanzialmente. Allora, proviamo a fare questa cosa. Si è mosso, cioè, è arrivato lì. Eccolo. Sto andando con quella del cellulare, quindi non farò troppissimo. Vabbè, vuoi che riprendiamo la prossima così? No, beh, vediamo un pezzo, non so quanto mi possa consumare sul pezzo. Penso che la diretta sia finita. Di sicuro? No, in realtà no. Forse. Cioè, io la vedo ferma più che finita. Ah, forse ripromette. No, si muove. Eppur si muove. Eppur si muove. Boh, vabbè, dai, andiamo un po' avanti, poi vediamo. Ah, va bene. Tanto, non so, tra comunque un 20 minuti andavamo, penso, no? Sì, non manca molto. Allora, dai. Cioè, in realtà dipende in che modo finisci. Allora, ti sei preso un morso da un serpente che ti è spuntato dalla vegetazione. Beh, c'è la merda, cioè non c'ero... Beh, cosa vuol dire? Bastardo, guarda, vergogna. Hanno attaccato anche sfortuna, però hanno avuto più sfortuna. Che ironia, se ne va. E quindi quanti danni mi hanno fatto? Oh, posso saperlo almeno. 11. 11. Io ho sentito dov'è la strega. Cioè, ho sentito sì, che hai sentito dov'è la strega. E okay. Hai sentito che ha lanciato un incantesimo a 45 piedi di fronte a te. Cos'è quello che hai messo che sei lì? Che però io non vedo, non so cos'è, quindi tu... Questo è lo sciame di Coro. Ah, scusa, ah, ok. E... Pa, pa, pa, pa. Faccio un movimento e mi nascondo dalla strega. Per tendere una sorta di agguato il turno dopo. Ok. Mi tengo un po' di spazio per un'eventuale carica. Arrivi proprio qua? No, ma sta andando la diretta. E faccio un 24 di furtività. Minchia. No, scusa, ho sbagliato. 22. E ha fatto 17 di dado. Sì, 22. Comunque la diretta sta andando. Ok. Sei nascosto. Sì, l'idea è appunto dopo caricare. Ok. Questa era Garrosh. Tocca la strega che vede i suoi odiati corvi e non ci pensa due volte per tirargli una bella palla di fuoco addosso. Bravo, Vez, hai liberato l'esco. Beh, li ho liberati per salvarli e invece sono andati ad ammazzare. Un po' ironico questo. No, va benissimo, fungono da esca. Beh, ha sprecato un incantesimo su di loro invece che su di voi. Funziona grande. Esatto. Però questi non sono veramente delle persone. È uno sciame di corvi. Okay. No, però basta, cioè, uccidere i corvi porta delle maledizioni, non è che solo io te lo faccio a caso. Siamo noi la sua maledizione. Cattino, lo sai che vediamo okay. Tutto? Sì, quello so, però tu di sei non ci gli occhi li ho voluti tirare. E i corvi vengono polverizzati dalla palla di fuoco. Bravo, ma questa maledetta questa strega adesso però. Magari lo era già da prima. Doppiamente maledetta, perché è anche la maledizione di sfortuna. 31. Sfortuna. Hai un serpente nello stivale. Oh. Insomma, non l'aveva ucciso prima? Che sti cazzo di serpenti? Cioè, so... Erano 4. Vedo Atanas da qualche parte. No, sono... No, Atanas è qua, dietro alle rovine. In realtà non abbiamo neanche visto che direzione ha preso, proprio non abbiamo idea di dove sia. Già. Vabbè, tiro fuori lo stocco e faccio Green Flaming Blade. Mm-hmm. Marco, spara palla di fuoco sulla strega. Non la vedo. È dietro la nube e ha più di 60 piedi. Sì, è vero, sto Black Lucky. Può tirarla in quella direzione, di fatto. No, aspetta, devo controllare una cosa. Anche no. Ho fatto 12 a colpire. E invece no. Se tiro una palla di fuoco in quella direzione sono io. Sì. Avevo tiro salvezza sulla destrezza, Shell. I miei PG l'avrebbero fatto. Ma tira davvero una palla di fuoco? No. La tira... La... No, le dico quella che ha tirato prima la strega. L'ha tirata nello sciame che era qua. Però tu sei, caso, proprio a 20 piedi dal punto in cui ha impattato la palla di fuoco. Ah, ok. Ho vantaggio di tiri salvezza sulla destrezza. Sì. Ta, ta, ta, ta, ta. E faccio o 4 o 6, scegli. 31 danni. E li prendo tutti perché non sono ancora in ira. Sono, e sono di fuoco, li avresti presi comunque. Ah, giusto, hai ragione. Ok, quanti danni hai fatto quel serpente su fortuna? Sto per morire. Anche no, ho fatto 12 a colpire. Colpisco? Ah, 12 a colpire. Sì, sì, lo colpisci. A 14 il Poisonous Snake. Ah sì, a 14, non a 12. Cazzo. Di cassa armatura? Sì, l'hai mancato. Allora, do... un'ispirazione 28. A Bardistan. Ok, Bardistan, tocca proprio a te. Ho un'ispirazione, Cioè ho un vantaggio bardica. A colpire. Ispirazione bardica. Puoi usare un D6 per praticamente qualsiasi tiro da aggiungere al risultato. Ok, vabbè, io provo a colpire il suo serpente, se ho capito bene. Ma è un giant? Un gigante serpente velenoso. Ah, minchia. Ma questi non li ha evocati da strega, erano lì e basta. Erano lì che, esatto, sono stati disturbati da un tirannosauro che gli ha distrutto la loro casino. Ah, spiacevole. Ma io vi goderò contro questo abominio, no, va bene. Tu scappi, non ti metti ad attaccare quello che vedi in giro. Vabbè. Cosa? Ah, vabbè. Allora, 18 colpisco, giusto? Sì. Quindi... posso fare un più un D6 a qualsiasi cosa, anche i danni? Non mi ricordo. No, quello forse per un tipo particolare di bardo. Beh, 2-1, direi che li ritiro entrambi. Bene, molto meglio. Questi sono 16 danni. Vabbè, muore. Ah, allora spiaccione. Quanto sono da sta strega? Troppo. Il serpente se per sfortuna. Puoi andare ad attaccare anche l'altro serpente. Ah, ok, va bene, d'accordo, sì, certo. Puoi fare un passo, anche due. 20. Allora, l'altro ho anche qui, faccio 18 e colpire, quindi non mi serve purtroppo quello di Miss Fortune al momento. 9 più 5, 14 danni. Morto. Bene, siamo liberi. Poi mi muovo di quanto posso. Il serpente. Sì, arrivi fino a qua. Non arrivo dentro la nube, se permetti. Non arrivi dentro la nube. La nube quanto è? La strega è 20x20. Molto bene. Ed è davanti a te, 25 davanti a te. La nube. La nube. Ok, e la strega io la vedo? La strega è 55, però di fatto no, perché hai, a parte che la tua, hai non la nube vedo. Che blocca la visuale. No, perché c'è Outkill che occupa la visuale. Ok, vedi che bastarda. È proprio lì davanti a te, esatto. E questo era Vardistran. Atanas. Cercherai Arci, mi farei curare. Ok, sì. Quindi Arci Perception. Può chiamarlo. No, a un certo punto dico... puoi chiamarlo. Lui ti risponde. Esatto. Medic. Ok. E Arci risponde: fai Perception. Ok, cioè, finalmente proprio... tutti i danni io, cioè. Tocca proprio a lui che sente il tuo richiamo della natura e corre verso di te, arriva fino a qua. Bello, puoi mettere, non so, lo vedi arrivare, momenti di gloria o quelle musiche lì. Vabbè, non è che ha dei danni che accumulano nel tempo, per cui rischia di morire. Ok, serpenti, corvi sono morti tutti. Garrosh, è il tuo momento. Rega, mi immolo. Dai. Non sei messo così male a dire mi immolo. No, ho 28 punti ferita. Vai, mi immolo per la causa, basta. Vado in ira e carico, come direbbe. Bravo. Sì, tua... stai caricando un mago, non stai caricando un terrasco. Sì, devo sperare di farle male, il problema è che lei mi farà qualcosa dopo. Prima carico... No, le streghe non sono proprio delle schifezze, Marco. 18. Hai modo di vedere per la prima volta, in modo ravvicinato, la strega, ed è questa vecchia qua. Quindi per diventare immortale devo farmi un bagno di sangue. Catta, fai vedere. Catta. Ah, scusa, ormai l'ho chiuso. Comunque. Vabbè, tranquillo, tranquillo. Ho fatto 18 a colpire. Colpisce. Ok. 3 più 6, 7 danni. È d'argento per ora almeno. Non ha. Ok, ho visto, Non ha? Belline. Riduzione. Ok, poi faccio l'attacco extra. Hai detto 7 danni. Sì. No, 9 danni. 3 più 4 più 2, 9 danni. Secondo attacco 23 a colpire. 1, 13 danni. Tirato basso. E ok. Attacco, ultimo attacco. 4 più 7, 11. Mi sa che non colpisce. 11 non colpisce. Vediamo se tiene la concentrazione. Ok, perde la concentrazione e vedete la nuvola venefica che si dissolve. Grande, CEO. Ma tanto non la vedi, non lo so, forse non la vede lo stesso. Beh, sì, vabbè, ma tanta roba, intanto non c'è una cosa. Vede la nuvola che si dissolve, ma non è ancora... Però, sì, vedi la strega che sta venendo attaccata da CEO, da Garrosh. Cazzo, potevo fare attacco in count, non ci ho pensato, vabbè, troppo. L'hai colpita comunque. Sì, potevi sculare, vero? Ok, questo era Garrosh. Ora invece tocca la strega. Che vede Garrosh? E gli dice: tu come osi? Rivolgi le zozze manacce. Scrianzato. A chi è più appropriato. Se chiedo scusa. Esatto. Se chiedi scusa hai svantaggio al tiro salvezza. È liberissimo. Allora. Prova a ammagliarti e prova a mettere sulla tua testa una corona fatta di ferro, e devi fare un tiro a salvezza sulla saggezza. Una corona di ferro? Ti è addirittura incoronato. Oddio. Ringrazio. Infatti, a me piace, ma io sono d'accordo, non ho niente in contrario. Per te è caduto il dado, ritiro. Faccio 1. Ah. Ok. Allora. Ho fatto un fumble, veramente. Fortuna allora, che non abbiamo visto Katta che è venuto in questo momento. Belli. Ti piace il mio? No. Belli, eh? No, in realtà avevo un presentimento che sarebbe successo, quindi me l'aspettavo. Comunque, quando adesso sei sciarmato... È apparsa questa corona di ferro battuto. Il mio amico non è più strato, ma è la strega. Te aspettavi così? Esatto. Avevi il fazzoletto pronto? Esatto. E la pazzia risplende nei tuoi occhi, c'è scritto. No! Allora, il bersaglio sciarmato deve usare la sua azione. Per caricare Marriston, c'è scritto questo. È così che va. Devi fare un attacco contro una creatura che non sia quella che non sia te stesso. Che tu... Grazie, non è questo. C'è specificato, no, è importante. Che lei sceglie. Che lei... lei è la strega. Sì. Fico. E nei turni successivi devi usare la tua azione per lei deve usare la sua azione per mantenere il controllo, e alla fine di ogni tuo turno hai un tiro salvezza per vedere se di fermare il controllo. E quindi dice before moving, vabbè, quindi quando starà a te, ricordiamoci questa cosa. Quindi io guardo il lato positivo, non mi fa dei danni. Ma è concentrazione. Esatto. È concentrazione. No, dico, lei non fa dei danni a me a questo turno. Per me è positivo. Allora. Ok. Ah, poi usa il suo movimento per andarsene lontano da te. Attacco di opinione. No. Va bene, bella, bel tentativo. Sfortuna, tocca a te. Ok, io avanzo. Ok, avanzo, diciamo, vicino accanto a Varristan. Puoi arrivare fino a qua. Voglio avanzare accanto a Varristan. Ok. Quindi adesso vedo Garrosh. Marco, con una corona di... cioè, hai ancora una palla di fuoco. Esatto. Ma non vedo la strega. Sì, ma vai a per vederla, sì, per favore. Non posso andare per vederla, è troppo lontano. Sei avanzato di 10 piedi. Vedi... No, sono avanzato. Perché volevo andare di 5 a te. Esatto, cioè 20. Se vai di 30 magari la vedi. Sono stato di 20, me ne rimango un 10. Se arriva, fa di 30, se fa tutto il movimento arriva qua. Comunque non la vedrebbe. Beh, sulla diagonale, catta. Allora io penso che... cioè, abbiamo visto che andava di là più... comunque, abbi pazienza. Qua. Sì, ma c'è comunque un muro qui. Credo di pensare, cioè, che Garrosh l'abbia sconfitta, che si abbia preso una corona dal cadavere. Mi vuoi dire che l'unico muro da dove la vediamo cagato, è quello? Cioè. Vedi, vedi chiaramente la pazzia che risplende negli occhi di Garrosh, quindi non è, non è normale. Una cosa, ti è partito il wifi a casa, proprio la connessione, sì, di casa. Sì. Ma che gestore hai? Fastweb, era già successo qualche giorno fa. E anche ad Amre è partito il wifi di Fastweb in casa in questo momento. Io sto usando il cellulare, quindi non lo so, però forse è un problema loro. Sì, sì, ne sicuro. Però comunque la diretta là. Anche alla vicina di Amre. Sì, sì, sì, io stiamo andando col mio... No, no, stiamo andando col mio cellulare, che è sempre Fastweb, però mobile. Sì, sì, sì, sì, è partito un sacco di gente. Ah, stai hotspottando col cellulare. Sì, infatti non so quanto... Ok, voglio usare la mia azione per inviare un messaggio a Garrosh. Mm-hmm. Adesso controllo, okay, se la situazione si mette male stopperemo. E gli chiedo tutto bene? Ok, il messaggio gli dà la possibilità di rispondere, giusto? Va bene, sì, è un 2% a ogni 10 minuti più o meno, scusami, della mia capacità. Cosa rispondi, Garrosh? A me, scusami, non stavo ascoltando, non avevo capito parlarsi con me. Ti ha mandato un messaggio e ti chiede se va tutto bene. È tipo telepatico? No, esatto. Solo tu, solo tu lo puoi sentire e puoi rispondere con un sussurro. Siamo nel pieno del fight e dobbiamo sculare la strega, cioè cosa ti devo dire? Sì, per ora sto bene, ma dobbiamo... Hai una corona e sembri impazzito, non lo so. Ma cosa può fare lui in questo momento? Ma io posso dire che uno che è un incantatore arcano che pensa che la situazione sia normale, cioè non ha senso, però va bene. Marco ha paura di avanzare. Io o deve rispondere la strega per me? No, tu semplicemente... Tu senti tenendo considerazione della mia situazione, rispondo io. Dipende, perché sì, quello che gli dice di attaccare è Marco, lui gli dirà: muori, merda! Esatto, sì, no, vabbè. Ha detto, la strega ha detto di attaccare Varristan perché non vedeva Marco da dove stava. E, quindi sì. Vabbè, cioè, allora gli dico, sì, uccidiamo Varristan. Esatto, sì. Questo glielo puoi dire. Indico Varistan e dico uccidiamolo. Ok, avanti, tutti mi diranno ok, però. Esatto, tipo Marco, mi sembra un'ottima idea. Vai qua quindi. Sì. Ma come, okay, ti allontani dal nemico? No? Ce l'avevi portato. Non sono un tank, non posso stare in corpo a corpo. Arrivo io. Ok, condividi questa informazione, Marco. Perché dovrebbe? Pronto? Varristan, perché... non credo di avere abbastanza tempo per fare tutto il dialogo, quindi dico qualcosa di tipo... Forse devi andare. Certo, contro la strega. Anche tu. lui ci sta bene. No, il fatto è che se gli dici che Garro se lo vuole menare, lui ti risponde che è tutto ok. Cioè, esatto. mi sarebbe preoccupato il contrario. Guardi, staranno tocca a te. Allora, fammi capire, Katta, perché voglio essere abbastanza sicuro di quello che tu stia facendo. Sì. Questo, in questo edificio ogni muro ha un buco e possiamo vedere tutto. Ma lei è andata dietro l'unico muro che invece non ce lo permette? Ho capito bene? Esatto. Okay. Esatto. In realtà è dietro a due muri. È dietro a più di un muro. Cioè, se io vado lì nel buco non la vedo? Per intenderti. Qua no. Cioè, dovresti andare dove? Ma non ci arrivo. Io se faccio 30 piedi dove arrivo? Oh. Qua. E lì non la vedo? No, lì non la vedi. Se usi il resto del movimento, sì. La tua azione per fare un dash, sì. Se no puoi andare dritto verso destra. Esatto. Sì che uso l'attacco di opportunità. Cioè, no, perché arriverebbe... Verso destra dove arrivo? Arriverebbe qui, lo useresti. Lì arriveresti qua e la vedresti. Sì. Arrivo lì e la vedrei. Beh, vabbè, è lì che andrei. Però, e passi di fianco a uno sceo con una corona di ferro e la pazzia negli occhi. No, ma io posso avere il dubbio che lui mi voglia del male? Cioè, in realtà l'ho sentito. Guarda, le labbra. No, voglio capire questo. Se ho la possibilità di capirlo, allora non vado verso di lui, ovviamente. Se invece... Hai la certezza che non sta... Beh, hai la certezza che non sta bene, ma se non sta bene magari io provo a dargli vicino a dargli una mano, se invece capisco che mi vuole uccidere magari evito. No, dico non è bene, non nel senso è ferito, nel senso prima... che non è mentalmente a posto. Vabbè, Katta, io prima però ho detto uccidiamo Vardistan. Sì, ma l'ha detto Albert. Non mi ha avvisato. Vado lì dove era prima, così la dovrei vedere. Sì. Ok, qua vedi la strega e passi. Sì, aspetta. Fianco a Garrosh. Sì, quello mi prenderà sicuramente l'attacco, però la bonus action del voto di in amicizia lo uso contro la strega, perché mi dispiace ma è a un palmo da me, ora non puoi dirmi che ci sono dei muri che non la vedo. No, piuttosto okay. Non hai Misty Step? E sì, è che era quello che volevo usare, ma visto che tu mi hai creato improvvisamente una specie di cosa per cui non la vedo, io devo vedere dove posso andare, quindi non posso andare Misty Step a 30 non vederla e farlo, se no l'avrei fatto ovviamente. Era quello che volevo fare, ma no, tu però mi dici se lo che usi... non... no. Sì, ma non... Se lo usi quando passi di fianco a Garrosh non prendi l'attacco d'opportunità. Sì, però non lo faccio lì perché gli andrei contro e non senza colpirle, capito? Quindi non ha senso sprecare un coso per andarle di fianco e non colpirla. Se invece a 30 io la vedevo, lo facevo. Ragazzi, questo è troppo distante. Per questo io ti ho chiesto a 30 la vedo e tu invece ci hai messo improvvisamente l'unico muro, l'unico muro funzionante, e quindi sfiga, niente. Passo da Garrosh, mi prendo l'attacco. No, aspetta, però, scusami, ho capito cosa vuoi fare adesso. Cioè, io volevo arrivare a 30, se la vedevo da un buco, se la vedevo da un buco, facevo Misty Step, se no non posso fare. Allora, ma non importa che tu veda lei, basta che tu veda il punto dove vuoi arrivare. Ma se io non lo vedo il punto, come faccio a fare il Misty Step? Capisci? Cioè, se lì c'è una barriera impenetrabile, io non posso dire vado oltre la barriera, questo è il concetto. Ma infatti io quello che volevo, che pensavo era se io la vedo nel senso, perché lei è coperta dal muro, nel senso che è in copertura. Io non le voglio tirare una freccia, ma se riesco a vedere ovviamente tipo che c'è lei che ride dietro dicendo adesso li uccidi tutti, allora ci vado. Un pezzo di terra al di là. Ah, se la vedo, se capisco che lì lo faccio. Da 30 piedi, così che io possa fare 30 piedi. Tu sai che è lì dietro perché ha lanciato un incantesimo il turno prima da lì dietro. Sì, che io sia andata lì lo so, però il discorso è che io devo vedere dove atterro, capito? Sì, esatto. Quindi se io posso fare 30, il Misty Step di 30 e poi attaccare, lo faccio. Se non posso farlo, allora non lo faccio. Lo puoi fare perché perché a te non serve vedere lei, ti basta vedere un luogo dove entrare con Misty Step. Ci sta, però se io non capisco che lei è lì attaccata, non lo faccio, quindi mi devi dire tu, Licatta, cosa vedo io, capisci? Questo è il concetto. Sì, capisco, cioè tu non vedi lei, ma sai che lei è lì dietro perché lei ha lanciato un incantesimo il turno prima, sì, in ma quella ho visto direzione lì. Vabbè, se tu mi dici che io che intuisco che sia lì, lo faccio. No, no, ma a me va benissimo, io era quello che volevo fare. Era per questo che ti chiedevo se la vedevo o meno. Ah, no, quello vabbè, sì, ok, perché non l'avevo detto, perché volevo farlo, se riuscivo a farlo, volevo farlo ad effetto. Sì, sì, sì. Però se era per questo, io avevo capito che lì c'era proprio un muro in valicata, cioè che ci poteva stare, ovviamente, perché questo palazzo più o meno sarà... intravedi attraverso dei buchi. Se la riesco a intravedere, allora posso farlo. Vabbè, allora lo faccio. Lei semplicemente è sotto copertura, ma nel momento in cui dici, ok, io so che è lì dietro in qualche punto... No, no, posto, posto. Se mi dici che posso farlo, io è quello che volevo fare. Aspetta un secondo. Ah no, niente. Quindi io non uso Vau perché non posso, ma uso sicuramente il Misty Step, era il mio ultimo di secondo. Esatto, e poi attacchi. E poi faccio i miei attacchi. Che bello, così ti circondiamo, grazie, perfetto. Non ho il più 6 di Miss Fortune, però. Sì, hai un D6, hai un D6. Ce l'ho ancora? L'ispirazione bardica. Sì, allora mi sa che ho fatto 4 col dado, con 18 la colpirei, presumo. Ah no, devo tirare un D6 però. Perché ho fatto 14, che non lo colpisco, proviamo a tirare sto D6, è un 3, quindi è un 17. No, non è vero, aspetta. Sì, no, 14... Più di 15, no, è un 12, è un 15, è un 15. Ah, non sarà più... Ah, era 12 la classe armatura? 15. No, è 15. Ah, allora 15 è perfetto, la prendo. Che culo, grazie. Prego. No, che a sfortuna. Ti dicevo grazie. A te, con te non parlo. 13 danni. Meglio così. Secondo attacco 13. È 21 a colpire. Ma io lo posso usare uno smite o no? Secondo voi no? In teoria no. Sì, usalo. Ho già usato il Misty Step come bonus. Posso? Cioè, non è un'azione usare lo smite. Allora al secondo colpo lo uso lo smite. Sì, va bene. Al secondo colpo tipo, uso lo smite. Due attacchi, puoi usarne due di smite. Sì, lo so, ma il primo non l'avevo detto. Quindi uso lo smite. E poi hai ancora degli slot. Ne ho 2 di 1. Questo 2 lo ritiro. Ed è sempre un 2. Peccato. 7, 14, 19. Come se non ci fosse un domani. 5, 24. Rischi di non esserci un domani. Lo sta facendo. Quanto hai fatto? 24. No, me ne è rimasto uno di smite. Vabbè, il prossimo speriamo di riuscire a usarlo in qualche modo. Ah. Vedi che è gravemente ferita. Peccato. Atanas, vai e raggiungi Patka. Concentrazione. Aspetta, prima... a questo punto dico Patka di seguirmi. È vero, due concentrazioni della strega. Vediamo se li passo entrambi. Vai. L'abbiamo risolta, così. Non c'è più la corona sulla testa di Shell. Va bene, attacco Vardistra. Comunque. ora capisco meglio. Tocca ad Atanas e Patka che stanno correndo quindi indietro. Sì. Fatti curare però. Io faccio un movimento, Arci ne fa due... E poi quando a un certo punto mi farò curare quando siamo più vicini. Ti curavo io, Giulio. Ho capito, sapevo doveri. Sai che forse mi è tornato il wifi? Aspetta che faccio un tentativo. Poi soprattutto Patka non ha altri incantesimi, tu hai degli incantesimi che fanno danni. Tra l'altro sta cazzo di strega è ancora maledetta, quindi se tu hai qualcosa sulla destrezza... Tipo pala di fuoco. Allora mi tornato il nido del carro. Se va a destra lì magari. No, pala di fuoco, va bene. No, sarà già sempre fatto. Garrosh, tocca a te. Vai, sono credo connesso. Aspetta. Lascia te, Rega. Vai, grazie. Sì. Sono ancora in ira, anche se... Posto, Rega. Tornato il wifi. Ah, sì. Di fatto, tutti i tuoi turni hai attaccato, hai subito danni. Sì. Allora, il primo attacco è un fam. Bravo. Faccio l'attacco. Vale come caricamento. Sì, lo spazio l'avevo. Sì, sì, sì. Quindi l'attacco di fatto, sì. Caricamento fa 21. E quindi sono 3, 6, 11, 3 più 11, 14 danni. Poi faccio l'ultimo attacco. 14. Vai. Uso l'inspiration. Bande. Bello. Ah, aspetta. Vai. Era già morta. Sì, era già morta. Ah, ok. Se no usa l'inspiration. Usala, usala, usala. Eh no, è già morta. Hai detto. Ottimo. Infierisci. Infierisco. Ah, no, posso usare? Posso attaccare? The witch is dead. Yes, senza neanche giurare inimicizia, non ho bisogno di questi trucchetti. Boh, faccio l'ultimo attacco su Vardistran. Esatto. Cioè, no, però ho ancora un comunque, ho ancora uno smite e ancora un 11, Il GS è 11. Certo. E poi c'è quello della capanna degli spaventapasseri. Solo la strega. Beh, ho 8. Beh, va bene 11, però se tutti sono 8. Bene, cioè, scusa, io non ho preso neanche uno di danno. No. Esatto. Quindi devo mandarvene considera... di più. Come... No, vabbè. Comunque considera che due personaggi di livello 8 sono un GS 10. Normalmente è così. Non quindi... è di livello 11, è un GS 11. Un mostro di livello 11 significa che è uno scontro per un party di 4 persone a livello 11. Sì, però in realtà l'atto pratico, se non è cambiato, no, cioè in realtà no. Sì, no, è così, dipende poi dal mostro come lo affronti col party, considerando che noi abbiamo... No, però anche ti posso dire tranquillamente che non è, cioè nel senso, si manda anche di più per mettere in difficoltà, se no... Sì. Purtroppo i GS sono fatti totalmente cioè, a raglio. Se consideri il livello del gruppo, hai un buon bilanciamento, in realtà. Cioè, per dire, noi a livello... Se ci siamo tutti e sei, siamo un livello 13, più o meno. Saremmo un GS 13. Vabbè, 5 ci siamo sempre, però. No, siamo un GS 12 noi. Abbiamo fatto in 4 perché Arci non ha combattuto, anche oggi mi ha trasformato in T-Rex. Infatti noi varremmo come GS 12/13, dipende quanti siamo normalmente, tra i 12 e i 13. Quindi finché è all'interno di quel range lì è battibile. Chiaro che poi io non lo so perché la casa non so quanto sia, più tutto il resto. Esatto, c'era la strega con la casa. Però ne abbiamo visti di peggio, secondo me. Il problema vero non è tanto quello, ma è quanto tu sei messo male prima. Cioè, noi per dire quel che Katta ci ha messo nella merda è perché eravamo tipo al quindicesimo combattimento nella stessa giornata senza che non fosse possibile recuperare nulla e lì tipo ti potevi solo pregare. No, è che hai avuto gli spaventapasseri prima, gli spaventapasseri con la casa, casa infatti... e poi i serpenti, poi la strega. No, era tosto, però alla pratico, sì, però era tosto, però se ci pensate nessuno è veramente andato, cioè nessuno è andato sotto sto giro. No. Cioè, tante volte siamo andati sotto. È culo, in realtà. Beh, anche se qualcuno andava sotto... Cioè, ci sono... Guarda che ci sono state anche situazioni non facilissime. Cioè, per dire... Culo, perché la casa ha fatto due volte uno a colpire. Vabbè. Che... È uno scontro molto letale, su questo sono d'accordo. Beh, come tanti che abbiamo visto. Però dipende, cioè, nel senso, se Kato si è fatto fare... Tipo, magari, ecco, se tipo il fantasma ci squinzagliava contro 40.000 fantasmi, lì probabilmente saremmo stati debilitati e lì sarebbe stata veramente tosta. Così sta tosta, però in realtà il GS non è... Vabbè, cioè, su questo anch'io l'ho visto, ma era così anche da 3.5. È anche vero che ogni tanto... Quello che effettivamente ti cambia molto e... E l'abbiamo visto anche sulla nostra pelle, quanti combattimenti tu fai fare senza che tutti i personaggi siano al massimo. perché quello sposta parecchio. Allora, questo è un challenge 11 dopo la casa, dopo gli spaventapasseri, dopo lo sciame. Poi vabbè, fai tu. No, infatti. E i serpentelli. No, però infatti fa anche l'esperienza. Ma quella la cioè, non è una critica accata, tira una fuori nuovi mostri. Sì, noi questo combattimento l'abbiamo affrontato molto meglio perché ormai siamo abituati. Se siamo abituati che quando arriva il primo combattimento, noi cerchiamo di usare il minimo perché sappiamo che probabilmente ce ne sono altri 15. Quindi, tipo, nel primo dici va bene, colpisco con le mie mani, con i guanti. E evito di usare qualunque cosa che assomiglia a un incantesimo o un potere, che è un po' anche il pericolo perché cerchi magari in sempre realtà, di rimanere secondo indietro. Me sì, era difficile, però tieni conto che abbiamo ancora degli incantesimi di cura a disposizione. Sì, cioè, io ho finito comunque con abbastanza punti ferita, uno di primo e comunque anche il voto di nemicizia non l'ho usato. Poi il resto l'ho usato tutto, quindi non è che mi mancasse tanto. Arce 30 punti ferita. Sì, quindi, no. Però no, sto dicendo no, ma infatti che dipende, lui... ma infatti dipende, per dire, io non sono stato tanto coinvolto, perché comunque ho passato dei momenti a girare. Sì, per due sessioni praticamente non ha combattuto e ha 30 punti ferita, non è mai accaduto nella storia, cioè... Chiariamoci. Dipende se io ho dato solo metà delle mie magie e ho tutta la vita. Sì, vabbè, tu quello sempre. Ho anche i punti vita temporanei. No, Giulio, quello che intendevo è che Arci comunque aveva ancora degli incantesimi di cura, quindi fosse sì, caduto sì, qualcuno, magari... No, due. Faceva un cazzo. No, ma io ne ho quattro ancora di cura, volendo. Uno di terzo, vabbè, secondo, ancora... due di primo. Vabbè, per dire che ne abbiamo visti anche di tosti, forse... più o meno sì. No, era tosto, comunque, ma è bello. A me piace anche così, ogni tanto ci deve essere quello un po' più tosto. Sì, sarebbe bello essere premiati con un livello ogni tanto, discorso. Dai, che manca poco. Ci siete ma è quasi. Da tante sessioni che manca poco. Ogni sessione. Ma adesso manca. Ancora meno. Ma tanto il 9 non succede. Cioè, l'unica seccata ci fa salire al 10 prima di affrontare Strat, quello sarebbe sensato. Ma allora devo ricalibrare strada per farla ancora più forte, quindi a me va benissimo. Strada tipo 15. Ma a me va benissimo se lo potenzi e ci dai il 10, cioè non ce la godiamo di più. Cioè, avere il 10 nel momento, cioè avere il 10 nel momento in cui sostanzialmente l'avventura è finita è la beffa per me. Se fosse stato l'11, cosa sarebbe cambiato? No, ma per scindere. Beh, intanto il 10 comunque qualcosina succede, se non sbaglio. Ah, perché vuoi prendere il secondo attacco. Ma, oddio, anche solo, ma vale per qualunque classe, penso. Sì, certo. Cioè, al 9 cosa c'è, tipo, c'è un cazzo. Ci sono gli incantesimi... chiaro, che al 10 hai gli incantesimi di livello più alto e tutto quanto. Però, chiaramente, devo calibrare poi e fare del lavoro in più per adattare il resto dell'avventura. Ah, vabbè, dico solo che potresti fare. Beh, basterebbe metterci fare, due, basterebbe metterci due luogotenenti in più, cioè due serpentini in più. Già i combattimenti sono eterni così. E questo per fare questo si è messo tre sessioni. Vabbè, sì, così. Sì, no, basta. Figurati dopo. Vabbè, io la mia proposta. Io la mia proposta l'ho fatta. Tranquillo, tanto su Strad sarai tu contro Strad e poi insieme esatto, a Strad quindi sarò al 10 io, ci sarà. Al 10, dai, allora al 9 non c'è niente, cioè non c'è niente al 9. Ho capito, ma vuoi andare al 10 solo per scontrarti con Strad che Strad sarà insieme a me? No, non è vero, il 9 in realtà è abbastanza potente, mi aumenta il proficiency e prendo due di terzo. Beh, tieni conto che con tutte queste sessioni ormai sappiamo bene i punti di vista. No, in realtà per me è inutile il 10. È il 10 quello inutile. Vabbè, allora non salirai al 10 quando ci no, non è inutile. C'è comunque una cosa figa che è l'aura di aura coraggio di coraggio, che ci bravo. Sta di brutto. Sì, la cosa bella sarà, ok. Che ci sta, cazzo, sarebbe fantastico. Siete al decimo livello, tutti tranne. Tipo, non abbiate paura di Strad. E noi, sì, perché in fondo Strad è nostro amico, cosa? Ok, io adesso mangio la pietra. Sì. Ok. Bene, direi di chiuderla qua. Bene. Tra l'altro ho ancora la bottiglia di vino di Strad presa... dalla torre. Tra l'altro... dal pontile. Preserviamo i gigabyte di Vezzino. No, no, io sono col wifi, sono tornato. Ah, sei tornato. Sì, sì, sì, è stato lo switch. Assolutamente. Come? Per la prossima volta, come dicevo, faccio fatica la prossima settimana. Però quella dopo dovrei essere tranquillo. Sei sempre fuori? Fuori no, però ho 4 giorni su 5 ho delle verifiche, come si dice, online. Cioè, fai fatica ad esserci o fai fatica a masterare? Ah, per fare l'ex arcana non dovrei far fatica se non succede nulla. Beh, allora potremmo... facciamo settimana prossima Nex Arcana, posso di fare domenica. Esatto. Per me ok. Possiamo fare quando volete. Per me va bene anche per dire mercoledì, che sicuramente posso fare un po' più tardi. Però va bene anche un altro giorno. Cioè, tu, Katta, come orari ogni giorno vale un altro? Cioè per fare un po' più tardi, diciamo. Per fare un po' più tardi... Cioè, come oggi non chissà che ora. Sì, no, certo. In questo caso non cambia molto. Boh, io vi propongo a sto punto mercoledì prossimo, tendenzialmente. Per comunque bene, parliamo nel cose. Mm-hmm. Tanto penso di essere ancora in cassa integrazione per un po' io. Ci aggiorniamo. Cioè fai a mezzo servizio o proprio non stai andando? Cioè il bar riapre ma vanno solo le mie titolari. Ah, okay. Perché... ho capito. Vabbè ragazzi, intanto le dirette direi che le possiamo chiudere e ringraziamo chi ci ha seguito, continuate a farlo sui nostri canali social Tycoons & Dragons RIPGDR e prometto anche che andrò a pubblicare un po' di quello che è rimasto indietro, esorto Katta anche a ritornare in pari e, perché adesso con questo diventano 3 Katta quelli che gli mancano appello. E quindi, visto che la prossima settimana non avrai tutto tempo, sfrutta questa. E niente, allora, prossimi appuntamenti. Quindi, come avete sentito, probabilmente la prossima settimana ci rivedrete con Umbra Imperi, ma rimanete in attesa perché vi daremo sicuramente notizie nei prossimi giorni. Grazie per averci seguito e alle prossime delle nostre avventure dove ci lanciamo su dei teschi in aria lanciati da tirannosauri volanti. Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Buonanotte! Buonanotte.